E poi facevamo tutte ma dove ci presenta lei prima? Presenta lei? Oppure cominciamo già? Tu cosa dici? Aspettiamo. Sì, ok. No, auguri se lasciamo la verità. Bene, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, siete tanti, grazie di essere qui, grazie della risposta. Io sono Giovanna, sono il presidente dell'associazione che ha organizzato insieme all'agriturismo questo incontro e mi fa piacere che siate qui. Il tema è abbastanza importante e abbiamo una figura di spicco che ci parlerà di questa cosa. E presenterà prima Francesco la dottoressa. Grazie. Allora, io in realtà sono qui perché mi sono intrufolato. Ho visto che c'era lei, ho detto no, io siccome sto a Pisa ci devo essere anch'io. E così ho chiesto di partecipare. Dunque, perché ci tengo molto? Perché tutti voi la conoscete, io l'ho conosciuta qualche tempo fa, quando tutta questa storia è iniziata, quando la storia della pandemia è iniziata 2 anni fa. In realtà mi occupo di economia, mi occupo di educazione, non mi ero mai occupato di vaccini e di quello che è arrivato dopo. Però io e tanti altri abbiamo subito intuito, proprio all'inizio, che questa storia sarebbe durata a lungo, come oggi la guerra che hanno preparato da molto tempo durerà a lungo, e che avrebbe avuto delle ripercussioni enormi sulla vita sociale di tutti noi, sulla vita economica. E così, nel tentativo di analizzare, di capire quello che ci stava accadendo, che ci era piombata addosso, ho incontrato in rete Loretta Bolgan e subito ho fatto in modo di prendere contatti con lei. Ho fatto delle prime interviste e già in quelle primissime interviste ho capito lo spessore enorme che viene da lontano, da molto lontano, perché lei non è, si occupa di vaccini un po' all'inizio per mestiere e poi da sempre lavora sui vaccini pediatrici, ha lavorato sui danni da vaccino ai militari. Ecco, quindi quando parli con lei capisci perché, per esempio, rifiuta la dicitura questi non sono vaccini, sono terapia genica. Perché cosa si nasconde dietro questa frase che sembra? È che i vaccini vanno bene, in generale sono questi che vanno male. E allora, invece, incontrando lei, capisci che davvero nel momento in cui i vaccini diventassero un tabù, allora avremmo fatto un enorme, grande passo avanti nella storia, diciamo, della medicina. Se finalmente, dopo che ci sono state sofferenze, vittime, e siamo nel bel mezzo di questa situazione, per la prima volta si è fatto un esperimento di vaccinazione di massa su scala planetaria, se ne uscissimo finalmente facendo diventare tabù l'epoca dei vaccini, avremmo fatto un enorme passo avanti. Insomma, intervistandola più di una volta, siamo diventati amici, ho scoperto anche un'altra cosa importantissima, che lei si occupa di vaccini, ma si occupa di un mare di altre cose, tutte importanti, per ciò che ci attende. Per quello sono felice, come voi, di averla qui con noi e le do subito la parola, perché oggi ci parlerà non solo dei danni dal vaccino, ma anche di un'altra cosa importantissima. Quando ci si è... avete visto cosa è successo? Il mondo si è diviso in due, no? Ed è successo che molte persone hanno, da una parte, giustamente rifiutato i vaccini, ma poi male informati, per esempio, non si sono curati adeguatamente nel momento in cui venivano in contatto con il virus e il virus li infettava, diventava malattia. Curarsi diventava importante, però c'è mancata l'informazione adeguata. E curarsi non soltanto nell'immediato, ma anche quando tutto sembra finito, quindi la long COVID, anche di questo ci parlerà, perché è estremamente importante non cascare, diciamo, nell'altra polarità dell'errore che si può fare, cioè trascurare la malattia e soprattutto quello che può procurare a più lunga scadenza. Quindi la ascoltiamo sempre con grande attenzione, perché lei è una fonte di cui anche così istintivamente capiamo che ci si può fidare. Ma perché ci si può fidare? Perché se uno va a studiare, va a vedere tutto ciò che ha prodotto nel corso del tempo, trova che il suo riferimento principale, che lei esplora grazie alla sua cultura, la sua cultura scientifica, tecnica, sono le pubblicazioni scientifiche. A me è successo ultimamente di aver pubblicato su Facebook semplicemente un articolo tratto da una rivista specializzata di settore e sono stato bannato di nuovo per un mese, perché le pubblicazioni scientifiche che dicono cose scomode non vanno fatte conoscere. Allora, con grande piacere do la parola alla nostra Loretta. Grazie. Grazie per la presentazione. Veramente. Sì, anch'io scusate, vi do le spalle. No, ma stai. Sono qua. Guarda, sì. Mettiamo così. Sì. Non ci sono spalle. Non riesce a stare a cattedra, è così lei. No, anche perché le persone là dietro, sì. Scusate che poi non mi vedono. Grazie. Allora, sì, beh. Io dopo siamo diventati amici perché ha tante competenze che io non ho, per cui abbiamo fatto un po' una compromettazione. Ne parlerà anche lui, insomma, farà degli accenni all'altra emergenza grande che abbiamo, che è quella economica, anche quella della guerra, purtroppo, che sono gli altri aspetti di quello che stiamo vivendo dal punto di vista sociale. I vaccini sono uno strumento che viene utilizzato per fare guerra. Ecco, quindi purtroppo questo è quello che sta avvenendo adesso e in tutti i suoi aspetti. Io vi do l'aspetto tecnico-farmaceutico in maniera che possiate capire un po' meglio di cosa stiamo parlando e anche come potersi difendere. Dopo, la difesa dovrebbe essere anche legale, ovviamente, una parte legale importantissima, però io non so darvi le informazioni necessarie. Pur lavorando con gli avvocati, lascio sempre gli avvocati parlare perché non è materia mia. Ecco, quindi diciamo che l'argomento potrebbe essere diviso in questo modo. Non ho buttato giù una scaletta di domande, però magari mi arrangio da sola se vuoi farmi. No, te la faccio. Abbiamo fatto una scaletta di domande pensando che io. Anche pensando per dividere un po' gli argomenti. Potrebbero essere interessanti per tutti. Per tutti. Ci abbiamo diviso un po' gli argomenti anche per. Se volete anche alla fine di ogni domanda si possono fare delle domande aggiuntive, oppure se volete facciamo tutto alla fine come preferite, insomma, c'è nessun problema. Allora, la prima domanda è: cosa sappiamo adesso dell'influenza del SARS-CoV-2? Sì, allora, il primo errore che è stato fatto quando è venuto fuori l'infezione da SARS-CoV-2 è stato, da un lato, di dire che questa era un'infezione di un virus che non si conosceva. Primo errore, perché questo è stato definito fin dall'inizio SARS-CoV-2, quindi significa che prima c'era un 1, ecco, quindi SARS-CoV-1 è la SARS che è venuta, ha fatto un'epidemia nel 2003 in Cina. Epidemia che ha fatto toccata e fuga, perché c'è stata proprio in quella, sì, 2002-2003, forse 2004, però fatta una prima curva epidemica, poi si è estinta da sola, cioè è andato allo stato endemico perché non ci sono stati vaccini. Cioè questo è stato il motivo per cui non ci sono più stati casi di SARS. Però questo ha portato ad aprire un canale di ricerca molto importante, perché loro hanno cominciato a testare tutte le tecnologie possibili per fare vaccini contro la SARS, tra cui le tecnologie che hanno portato i vaccini che abbiamo adesso. Quindi loro hanno investito quasi 20 anni ormai di tempo e soprattutto una quantità enorme di investimenti di denaro nel biotech. Ecco, quindi il fatto che ci sia stata una corsa al fast track, quindi alla registrazione accelerata con questi vaccini qui, è anche per rientrare di tutte le spese per ricerca e sviluppo dei vaccini fatti sulla SARS. Quindi non è che i produttori devono recuperare i soldi per questo vaccino, devono recuperare i soldi di 20 anni di ricerca. E quindi ce la faranno pagare per un po' di tempo finché non avranno rientrato almeno le spese. Ecco, quindi questo è proprio una strategia di profitto. Ecco, quindi c'è un aspetto che riguarda il profitto che non possiamo assolutamente evitare di capire che c'è. Ecco, quindi capite anche che i produttori ci avevano detto la terza dose sarà contro la variante Delta. E non l'hanno fatto, hanno usato sempre lo stesso vaccino. La quarta dose hanno detto faremo quella contro l'Omicron e non l'hanno fatto, hanno sempre usato lo stesso vaccino. Perché? Perché se facevano il vaccino contro la variante dovevano registrare di nuovo con spese aggiuntive, non hanno voluto spendere altri soldi, no? E quindi c'è l'aspetto economico che giustifica purtroppo quello che stiamo vivendo in parte, giustifica anche il fatto che ci sono più di 350 vaccini attualmente in corsa per la registrazione, che è una cosa che non ha precedenti per una malattia. Cioè, se tenete presente per esempio che per il vaccino esavalente per i bambini ci sono due grandi ditte che lo producono, punto, non 350 ditte in corsa per fare la registrazione. Ecco, quindi anche questo è un po' come vincere la lotteria, perché se la ditta riesce a registrare con questa autorizzazione in cui gli vengono scontati i costi sulla sperimentazione sugli animali, i costi della sperimentazione clinica sull'uomo, perché fanno una procedura molto accelerata, e in più hanno anche dei fondi che vengono dati dagli stati stessi per la registrazione, praticamente non dico che sia a fondo perduto perché non lo è, ma sicuramente ha dei costi enormemente inferiori rispetto a quello che si pagherebbe normalmente, e in più avrebbero il vantaggio di andare a registrare una tecnologia nuova che poi utilizzano per altri vaccini, perché quello che succederà è che verranno spazzati via i vaccini che abbiamo adesso, la proteina, e faranno solo questi a base genica, perché questo è l'obiettivo, cioè introdurre biotech nell'uso dei vaccini e biotech per tutti i farmaci in generale, perché queste sono le tecnologie che ci troveremo. Quindi non avremo più l'aspirina, per intenderci, avremo il farmaco biotech che farà la stessa funzione dell'aspirina. Ecco, quindi questa è la proiezione, purtroppo, che è in atto già da diversi anni, che è quella della sostituzione del chimico con il biotecnologico, con risultati che saranno estremamente pericolosi, perché il chimico è vero che fa danni, perché è indubbio che anche i farmaci chimici causano reazioni avverse e altro, però dal punto di vista della produzione sono sicuramente più sicuri, perché è molto più facile identificare il principio attivo, è molto più facile purificarlo, è molto più facile controllarlo, standardizzarlo. Il farmaco biotecnologico non è standardizzabile. L'EMA si è rimposto, ha detto non vi faccio mettere in commercio questa roba qui, ed erano più di 10 anni che li stava bloccando, per cui loro con il fast track hanno fregato l'EMA. Ecco, quindi l'hanno fatto apposta, questo è il dubbio. Detto questo, quindi da un lato la parola d'ordine era dire non sappiamo niente di questo virus, oppure questa è una pandemia come quella della spagnola, no? Quindi catastrofica, ricordatevi vedete cosa ci dicevano Mariano, 60 milioni di persone come la volta della spagnola, quindi bisogna immediatamente fare il fast track. L'altro discorso, visto che non si sa che cos'è, non ci sono cure, quando invece le cure si sapeva benissimo quali erano, perché erano quelle contro la SARS del 2003, e quindi si sapeva benissimo cosa faceva, qual era il percorso della malattia, si sapeva benissimo anche l'andamento, anche dopo il Covid, quale poteva essere per questa malattia. Qui si sapeva che non bisognava assolutamente intubare un paziente che ha la SARS, e quindi non si capisce perché la prima cosa che hanno fatto è stato proprio quello di intubare le persone. Quindi c'erano tutta una serie di cose che mi hanno lasciato molto perplessa, perché ho detto ma è possibile io da sola in 15 giorni riesco a fare una ricerca prendendo gli articoli più importanti sulla SARS, capisco immediatamente di cosa si sta parlando, quali cure sono, qual è l'andamento della malattia, e 100-200 persone del CTS non può fare questo lavoro. Ti ho detto qua, vuol dire che c'è l'intenzione di non saperlo, no? E fatto poi, vi ricordate bene, c'è stato il grande scandalo dell'idrossiclorochina, quindi studi taroccati, pubblicati sull'Lancet, quindi su riviste importanti, quindi la messa in discussione della credibilità anche di questi grandi editori. E quello è soprattutto un problema che anche qui sono rimasta esterrefatta, perché dai primi studi i ricercatori avevano detto che la SARS è un virus enterico. Che cosa significa? Che è un virus che si insedia nell'intestino, anche perché questo qui ha una struttura portante come virus, perché è un virus ingegneritato in laboratorio, cioè qui abbiamo tutta la letteratura che ce lo conferma, quindi non stiamo parlando di complottismo, l'hanno fatto proprio su autorizzazione delle grandi istituzioni, quindi le istituzioni hanno dato l'autorizzazione a fare questo per un motivo teoricamente benefico, che è quello di studiare i virus letali pandemici, per poi creare dei vaccini. Questo è quello che l'OMS ha autorizzato ed è uno studio che viene chiamato di potenziamento di funzione, quindi fanno fare il salto di specie in laboratorio e virus. Laboratori che sono stati autorizzati per questo, quindi sono laboratori cosiddetti BL4, quindi di massima sicurezza, da cui i virus non possono assolutamente scappare. Sarebbe come far scappare il SARS adesso, penso, non so se mi spiego. Ecco, quindi è impossibile che un virus scappi, faccia una fuga da un laboratorio simile, perché ci sono troppi passaggi di sicurezza che non permettono assolutamente che questo succeda, e non sappiamo ancora come sia potuto succedere che un virus ingegneritato di questa entità possa poi arrivare a tutta la popolazione mondiale. Ci sono due punti gravissimi, perché anch'io all'inizio sono rimasta un po' perplessa, perché io ho creato virus in laboratorio, ho lavorato sull'ingegnerizzazione degli adenovirus, quindi il padre dell'AstraZeneca per intenderci, e quindi noi sapevamo, io sapevo per prima, che l'ingegnerizzazione dei virus ha una caratteristica particolare, cioè il virus non accetta il frammento ingegneritato nel suo interno, quindi appena può, quando si replica, lo elimina per tornare allo stato naturale, perché interferisce con la sua vitalità, con la sua replicazione. E invece questo virus qui purtroppo ha tenuto questi frammenti introdotti e ha fatto anche delle varianti su queste, su questi rispetto al virus originale, che questa è una caratteristica dei virus naturali. Quindi vuol dire che questa gente non solo è riuscita ad ingegneritare il virus, ma è anche riuscita a naturalizzarlo, che è una cosa che fino a qualche anno fa non si sapeva fare. Ecco, quindi se loro riescono a rendere naturali i virus ingegneritati, è un bel problema, perché vuol dire che hanno fatto un salto tecnologico molto rilevante e soprattutto molto pericoloso per noi, perché questi allora rientrano nella categoria delle armi biologiche. Ecco, quindi siamo già nel campo della, del bioterrorismo, ecco, perché non è, diciamo, il ricercatore, perché faccia qualcosa che deve restare in sicurezza, non dovrebbe fare dei virus naturalizzati, non so se mi spiego, cioè la naturalizzazione purtroppo ricade, come ho appena detto, nell'ambito del bioterrorismo. Però anche qui hanno creato un virus che colpiva le popolazioni, cioè la fascia di popolazione più debole, la fascia di popolazione con più patologie, intossicata da farmaci, quindi con una mortalità veramente bassissima, al di sotto di quella dell'influenza, se vi ricordate, no? Quindi non si può dire che sia un'arma letale il SARS-CoV-2 ingegneritato. È un virus che ancora adesso si sta discutendo, ma è naturale, non è naturale, adesso alla fine sappiamo che non lo è, perché ci sono documenti incontestabili che ci dicono che non lo è. Però tante persone hanno fatto un secondo errore di dire che è una semplice influenza. Ecco, hanno detto, ma è una banale influenza. Insomma, tante persone se lo prendono, non fanno niente. E quindi prendiamocela con calma. Questo anche per contrastare l'uso del vaccino, per dire, ma visto che è un virus innocuo, apparentemente innocuo, possiamo anche fare a meno del vaccino. Questo è anche giusto, nel senso che è stata anche un'obiezione che era anche corretta, però il vaccino in realtà andava contestato non con questa modalità, ma perché non si possono fare vaccini contro il SARS-CoV-2 per motivi che adesso vi spiego. Quindi anche di sottostimare la pericolosità del virus è stato un altro errore importante. Diciamo che i medici che hanno fatto terapia domiciliare precoce sulla base degli studi del SARS-CoV-1 hanno curato bene le persone, nel senso che ci sono dati da fare, c'è una fascia di popolazione di medici che è estremamente sensibile, che lavora secondo scienza cosciente, non è che non esistono, anzi ne abbiamo tantissimi, quindi anche questo, il fatto di andare a calcare sempre molto sulle parti negative di quello che noi stiamo vivendo, non è corretto, perché io sto sostenendo ormai da 2 anni gruppi molto grandi di medici che si stanno dando da fare e hanno pagato personalmente e continuano a pagare personalmente perché vogliono curare la gente e sono disposti a pagare di persona pur di continuare a curare la gente. Quindi la società si è spaccata in due, come sapete bene, no? Ed è bene che questo sia avvenuto, perché il processo in realtà era già il culmine di un percorso di decadimento sociale. Quindi, secondo me, se non veniva il Covid, sarebbe stato qualcos'altro che avrebbe fatto scoppiare un po' tutto quello che noi stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista educativo, quindi tante problematiche che noi vediamo adesso con molta più chiarezza. Guardatevi che la Lorenzina aveva già fatto un esperimento sociale molto importante, dal quale noi abbiamo dato una risposta ben precisa: andate pure avanti così, punto. Perché quello che è stato vissuto durante la Lorenzina è semplicemente stato esteso su tutta la popolazione, perché l'esperimento è andato a buon fine. Ecco, quindi anche questo purtroppo abbiamo avuto una grande responsabilità, ecco, non aver accettato senza reagire in maniera importante durante la Lorenzina. Almeno una parte di popolazione ha reagito con forza, ma la stragrande maggioranza della popolazione non sapeva nemmeno di cosa stavamo parlando. Ecco, quindi quindi un problema relativo anche alla gestione della terapia del SARS-CoV-2, perché anche qui febbraio-marzo 2020 erano venuti fuori degli studi importanti. Un primo ci diceva che il SARS-CoV-2 è un virus economicamente, scusate, il SARS-CoV-1 e il SARS in generale sono dei virus economicamente abitano l'intestino dei pipistrelli, quindi sono dei virus animali per i quali i pipistrelli sono resistenti, per cui si insediano nel microbiota intestinale di questi animali e non causano assolutamente nessun problema. Ecco, quindi il fatto che in natura questo virus sia residente nell'intestino, cosa ci dice? Questo è un virus intestinale, non può essere altrimenti. Invece cosa ci hanno detto? È un virus respiratorio, si respira, va nei polmoni, fa la polmonite e poi si diffonde nell'organismo, niente di più falso. Questo è un virus che si insede nell'intestino, causa l'infezione lì, poi si espande e va in altri distretti, ma soprattutto non è tanto il virus che causa un danno, è il sistema immunitario che nel tentativo di distruggerlo e di contenerlo distrugge anche i tessuti. Quindi abbiamo un percorso completamente diverso. Questi studi sono stati fatti febbraio-marzo 2020, poi sono stati completamente bloccati fino a settembre dell'anno scorso, quindi hanno fatto anche una distrazione di massa scientifica, perché hanno impedito ai ricercatori di pubblicare la verità, ecco, che avrebbe permesso ai medici di curare in maniera diversa la Covid e soprattutto di fare prevenzione per il long Covid, che è l'infezione cronica da Covid, che è la grande differenza con l'infezione da influenza. Cioè l'influenza è un vero virus respiratorio, quindi infetta le altre vie aeree ed eventualmente i polmoni e i bronchi. Quindi che conseguenze ci sono in seguito a questa infezione? Dipende dallo stato di salute della persona, nel senso che se la persona si infetta e ha un microbiota intestinale sano, normalmente nemmeno si infetta, cioè il virus entra nelle cellule batteriche e viene immediatamente distrutto, perché i batteri, soprattutto quelli fermentativi, quindi quelli che noi chiamiamo fermenti lattici, e sono dei batteri che riescono ad avere, cioè hanno la capacità di distruggere il virus in due modi. Prima producono una piccola proteina che si incastra nel sito di legame della spike e evita che questa proteina riesca a legarsi ai recettori, quindi ha un effetto antidotante sulla spike. L'altro sistema è quello di produrre degli enzimi che tagliano a pezzi il virus, ecco, quindi in questo modo il virus, anche se entra, non riesce a replicarsi. Quindi il fatto di avere un intestino sano è di grande importanza, ecco, fa sì che la persona eventualmente nemmeno si infetti. Questo è il caso dei bambini, per esempio, no? I bambini hanno un sistema immunitario anche intestinale, che noi, la maggior parte del nostro sistema immunitario è residente proprio nell'intestino, e fa sì che l'infezione sia o asintomatica o nemmeno avvenga. Ci sono dei casi però in cui l'intestino non è proprio ottimale, siamo in una situazione di disbiosi intestinale e magari la persona ha anche altre patologie, soprattutto patologie di tipo autoimmunitario, no? Soprattutto dopo una certa età è fisiologico avere cellule autoreattive che si formano nel corso degli anni e quindi la persona è predisposta per le malattie autoimmunitarie. Ecco, questo quadro qui porta alla cronicizzazione del virus a livello intestinale, quindi vuol dire che il virus continua a replicarsi a basso grado senza causare in realtà la malattia da Covid e continua a produrre la spike, quindi la persona purtroppo si intossica progressivamente di spike senza saperlo. Ecco, quindi l'insorgenza del long Covid può essere anche immediata, quindi la persona che si ammala poi non sta più bene, oppure può avvenire anche a distanza di molto tempo. Possiamo avere anche un long Covid che avviene anche 9 mesi, un anno dopo aver avuto l'infezione. Allora, e quali sono i segni che ci dicono che una persona ha il long Covid? Parliamo prevalentemente di danni da intossicazione da Covid, quindi spesso ci sono dei sintomi cosiddetti centrali, cioè neurologici. La persona per esempio non riesce più ad acquistare il gusto dell'olfatto, che è una cosa molto frequente. Io conosco tante persone che non riescono più a percepire i gusti e l'odore delle cose. È un danno neurologico questo qui, che può essere anche permanente purtroppo se non si cura da subito. Spesso viene trascurato, cioè il medico dice ma sì, va bene, passerà, no, senza andare a capire il meccanismo che è sotto la perdita del gusto dell'olfatto, no? E questa è in realtà un'intossicazione centrale da spike, che non va assolutamente trascurata, perché la spike nel cervello poi porta anche ad altri danni se non si va a correggere questo problema. Ci può essere una fortissima stanchezza cronica, fibromialgia, quindi reazioni che portano anche ad avere un grado di invalidità importante, cioè ci sono persone che non riescono più a fare le attività che facevano prima, perché la spike, intossicando il sistema nervoso centrale, porta appunto ad una carenza di ossigeno a livello centrale, per cui la persona si sente molto stanca e anche tanti dolori, ecco, anche proprio questa neuropatia in tutto anche a livello proprio muscolare, non solo, anche muscolare. Quindi parliamo anche di fibromialgia. Si è visto comunque che quando siamo di fronte ad una stanchezza cronica e fibromialgia, spesso c'è la riattivazione anche di virus latenti. Ecco, perché l'infezione ha una finestra di tempo in cui si può attivare l'immunodepressione. Cioè verso la fine di 10 giorni dell'infezione da Covid, la persona può diventare immunodepressa. Allora, se il sistema immunitario è forte, supera l'immunodepressione senza grossi problemi, però di solito bisogna aiutarlo con delle sostanze che dopo vi dico. Se invece si mantiene per una finestra di tempo piuttosto lunga, se la persona ha delle infezioni latenti tipo herpes, herpes zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, virus di questo tipo, si possono riattivare. Ecco, di solito i medici non se ne rendono conto, non lo sanno, spesso non fanno nemmeno le analisi per vedere questa cosa. Sentono che la persona si lamenta, spesso gli danno addirittura il Valium perché dicono che è una persona che ha qualche problema di ansia, e non si rendono conto che la persona sta sviluppando una forma riattivata di virus di questo tipo, che sono pericolosissimi se si riattivano, magari anche tutti insieme. Ecco, prendiamo una persona oltre i 50 anni, purtroppo queste infezioni da questi virus sono frequenti, possono riattivarsi anche tutti insieme. Quando si riattivano possono essere causa di altre patologie secondarie all'infezione. Ecco, quindi andare a vedere anche i virus che si sono riattivati è importantissimo per andare a fare il quadro del long COVID. Spesso basta curare queste infezioni per recuperare tutte le patologie da long COVID. E quindi noi abbiamo dei fenomeni di intossicazione dovuti al fatto che la spike riesce a passare la barriera ematocefalica, e abbiamo quelle che vengono chiamate sindromi da avvelenamento da spike. Ecco, quindi queste qui sono più frequenti con il vaccino, molto di più, però come soggetti predisposti possono averle. Dopo possiamo avere anche un po', diciamo, se si va a studiare bene il meccanismo della spike, possiamo avere problemi cardiovascolari, quindi quello che noi vediamo per i danni da vaccino purtroppo si può avere anche per il long COVID, quindi fare delle analisi periodiche di funzionalità cardiaca, per esempio se la persona ha delle piccole aritmie, sente che c'è qualcosa che non va, bisogna farle, non trascurarle. Problemi di pressione, perché la spike si attacca ai vasi sanguigni e può causare questi sbalzi di pressione importanti. E potrebbe esserci anche una progressiva fibrosi polmonare se la persona ha avuto dei problemi polmonari. Ecco, quindi anche in questo caso qui pare delle valutazioni che la funzionalità polmonare sia, sia buona a distanza di tempo. Ecco, vedete quindi che non stiamo parlando di qualcosa che possiamo trascurare, perché la deteriorazione della salute della persona che ha fatto il Covid può essere anche molto significativa. E quello che ho studiato recentemente è anche se una persona che si è infettata poi si reinfetta, no? Perché si parla molto di guariti, di come si chiama? Parliamo anche di memoria a lungo termine dall'infezione, quindi una persona che sviluppa una memoria immunologica non dovrebbe più reinfettarsi, oppure se si reinfetta fa una patologia molto lieve. Allora, questo è vero nella maggioranza dei guariti, infatti la letteratura ci dice che circa l'1% di persone che hanno fatto la Covid la rifanno, e se la rifanno la fanno in maniera molto leggera, quindi o asintomatica o con sintomi estremamente lievi, quindi non ci sono stati casi di ospedalizzazioni, di decessi in persone guarite, e questo è un dato positivo. Però io ho avuto tanti casi invece di persone che hanno fatto la Covid, poi l'hanno rifatta nel giro di 2 o 3 mesi, l'hanno rifatta anche 3 o 4 volte. Allora, mi sono infettata di nuovo. In realtà no, è la persona che continua ad avere la riacutizzazione della stessa infezione. Quindi c'è una riacutizzazione se la persona non si è curata bene. E questo succede quando la persona fa un'infezione lieve. Quindi dice, ma io ho preso il Brufen e sono stato bene, però dopo un mese l'hai rifatta. Ecco, quindi bisogna assolutamente curarla bene, anche se sono sintomi lievi. Ecco, quindi diciamo che i sintomi continuano ancora ad essere quelli originali, quindi perdita del gusto dell'olfatto, gastroenterite iniziale, problemi polmonari sì e no, dipende a volte. In questo periodo l'Omicron in realtà tende a colpire più i bronchi e non i polmoni, quindi è una forma molto più leggera. Però va curata, ecco, perché ci possono essere riacutizzazioni. Ecco, quindi vedete che siamo anche di fronte a qualcosa di particolare rispetto all'influenza. Quello che vi posso dire è che adesso l'evoluzione dei virus, parliamo di dei virus del SARS-CoV-2, perché questo è un virus che si presenta già come una popolazione di virus, non è un'entità singola, una grande popolazione di virus che poi si modificano a seconda del sistema immunitario della persona stessa, oppure se la persona è vaccinata. Ecco, quindi avremo varianti vaccino resistenti che possono essere anche più pericolose, e quindi varianti che poi sono dei nuovi virus, nuove popolazioni di virus che avranno una curva epidemica a sé, questa è la variante, oppure nel caso in cui la persona non sia vaccinata si formano le varianti asintomatiche, che la persona tende ad andare a tolleranza e quindi alla cronicizzazione. Ecco, quindi le varianti sintomatiche è vero che fanno finire prima l'epidemia, però se la persona sviluppa una variante asintomatica, quindi che non causa una complicazione grave e fatale, il virus tende ad andare a tolleranza col sistema immunitario, quindi c'è una convivenza all'interno dell'organismo con queste varianti. Quindi questa è un po' la situazione. Diciamo che adesso più le persone si infettano, e più si infettano anche più di una volta, perché comunque una persona che si è infettata all'inizio della pandemia può comunque reinfettarsi con le varianti, questo è possibile, però quello che si è visto è che siccome questo virus ha un involucro esterno, che ha una membrana, che lui si porta dietro ogni volta che esce da una cellula, si sta praticamente nascondendo all'interno di questi involucri che ormai sono di membrane umane, quindi il sistema immunitario comincia a tollerarlo molto di più. Ecco, diciamo che si sta umanizzando questo virus, quindi tra un po', con molta probabilità, poco più di un raffreddore non farà. Ecco, perché più il sistema immunitario impara a riconoscerlo e a tollerarlo, più avremo la situazione dell'infezione asintomatica. Ecco, quindi questo è un po' il quadro, posso dire che al momento è abbastanza chiaro, non mi sembra ci siano altre sorprese, ossia ci sono delle sorprese poco simpatiche dovute al fatto che hanno messo dentro dei frammenti di HIV dentro il virus. Questi frammenti di HIV inizialmente sembrava fossero stati messi solo con lo scopo di far sì che questo virus potesse infettare le cellule, invece ha delle conseguenze anche sulla patogenicità di questo virus. Allora, la prima conseguenza è che appunto questo virus può causare immunodepressione. Ecco, quindi questa immunodepressione purtroppo è legata anche alla presenza di questi frammenti. E l'altra, estremamente più grave a mio avviso, perché questo è un dato recente, può infettare tutte le cellule del sistema immunitario e bloccarle. Ecco, quindi anche questa forma di immunodepressione, se avviene in persone già predisposte, già immunodepresse, potrebbe portare dei problemi, ecco, molto importanti. Ecco, quindi questa infezione delle cellule del sistema immunitario non sappiamo ancora bene adesso che conseguenze potrebbe avere a medio e lungo termine. Ecco, però è una cosa che stanno studiando in questo periodo. In ogni caso c'è da dire che il sistema immunitario è abituato a interagire con virus, con batteri, con tossine, ecco, quindi è allenato da milioni di anni, perché i primi rudimentali sistemi immunitari ce ne avevano i batteri per difendersi dai virus. Le cellule più evolute come la nostra si sono dotate di tutta una serie di meccanismi che aiutano l'organismo a superare questa infezione. Quindi è ovvio che al primo incontro buona parte della popolazione deve reagire, cioè il sistema immunitario deve reagire in maniera nuova, deve trovare un sistema di azione, sia per eliminarlo ma anche per andare a tolleranza, che crea problemi nella prima epidemia, e poi il sistema immunitario si allena e trova una soluzione per convivere proprio con il virus, che è quello che sta succedendo adesso per chi non è vaccinato. Ecco, quindi l'introduzione dei vaccini in realtà va ad alterare questo equilibrio molto delicato nella convivenza tra il virus e l'uomo. E lo altera andando a rompere proprio quella che è la tolleranza immunologica, cioè la tolleranza immunologica tra il sistema immunitario e i virus. Ecco, quindi però magari questo ne parliamo dopo. E quindi penso di avervi detto tutto per quanto riguarda la caratteristica del virus e sulle conoscenze che abbiamo attualmente. Ecco, dopo, se vuoi, Sara, non mi ricordo più, tra quelle già. Allora, secondo me siamo come si può prevenire il long COVID? Prevenzione. Sì, allora la prevenzione è abbastanza intuitivo quale può essere la prevenzione del long COVID. Allora, prima di tutto bisogna lavorare bene sull'intestino, cioè bisogna cercare di eliminare il virus dall'intestino. E allora ci possono essere delle strategie abbastanza semplici, che è quella di proseguire per esempio la prevenzione che si è fatta per il COVID stesso, quindi l'uso di sostanze che mi vanno a irrobustire l'immunità innata e sono già estremamente utili. Qui sto parlando di vitamina C, vitamina D, lattoferrina, la quercetina, tanti fitoterapici che sono anche antivirali, ma sostengono anche il sistema immunitario, quindi gli danno tutte quelle sostanze che servono perché il sistema immunitario sia in grado di fare il suo lavoro, ecco, per intendersi, no? Perché il sistema immunitario cosa deve fare? Deve riparare i danni che fa il virus, e bisogna fornirgli tutte quelle sostanze che gli servono per fare questo, soprattutto gli antiossidanti. Ecco, quindi questa è una prima fase importantissima, quindi andare a ripristinare il danno che ha fatto il vaccino, il virus a livello intestinale. E quindi qui la fitoterapia e la medicina funzionale ci vengono in grande aiuto. Poi andare a ripristinare il microbiota intestinale stesso, quindi l'uso di probiotici che possono essere specifici contro il SARS-CoV-2. C'è un probiotico che mi sembra che anche il dottor Lozio stia promuovendo, è stato studiato per questo, oppure si possono assumere delle miscele complesse di batteri fermentativi. Noi in commercio abbiamo per esempio i microorganismi effettivi, che sono miscele estremamente complesse e che vanno a ripristinare il microbiota intestinale. Ecco, lo vanno ad arricchire di quei batteri fermentativi che vi dicevo prima, cioè quelli che producono le antitossine e gli enzimi che tagliano il virus. Se questo non funziona, cioè la persona ha veramente dei sintomi importanti, bisogna fare la cura, cioè quindi bisogna fare un trattamento, trattamento che può essere di vario tipo a seconda delle patologie. Ecco, diciamo che se si vuole fare una bella pulizia a livello sistemico, l'ossigeno ozonoterapia per esempio dà dei risultati molto buoni. Ecco, quindi fare un ciclo di ozonoterapia permette di eliminare il virus e anche la spike. Ecco, quindi quello che si è visto è che almeno i medici che conosco mi hanno detto che hanno dei risultati in quasi tutti i pazienti che hanno fenomeni di long COVID. E anche il diossido di cloro sembra che abbia un effetto molto importante a livello intestinale per andare a eliminare il virus. La neuroterapia è un altro tipo di terapia che funziona soprattutto per i danni a livello centrale, quindi danni neurologici, ma anche dove tutte le volte in cui c'è una disfunzione nel segnale che va dal centro alla periferia o viceversa. Ecco, quindi quando ci sono dei disturbi nella segnalazione, anche questo può essere di grande aiuto. Se ci sono delle riattivazioni virali, però qui bisogna fare l'analisi, bisogna andare a curare le infezioni virali che si sono riattivate. Teniamo presente che non ci sono solo i virus che si possono riattivare, ma anche i batteri intracellulari, parliamo per esempio della borrelia, della rickettsia, oppure anche i micobatteri, vari tipi di micobatteri. Qui purtroppo la diagnosi differenziale è molto difficile, perché ho visto medici che di fronte a certe patologie non riuscivano a capire di cosa si trattava, ossia riuscivano a fare diagnosi della malattia ma non della causa, e dopo invece andando a studiare meglio si è visto che la persona 30 anni fa aveva fatto una puntura di zecca, si era presa la sindrome, aveva fatto la sindrome di Lyme curata perfettamente con il SARS-CoV-2, dopo un po' di tempo gli è ritornata fuori. Quindi bisogna fare molta attenzione, ecco, e i medici non sempre, anzi la maggior parte delle volte non sono preparati per fare questo tipo di valutazioni. Però, ripeto, sono casi rari, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che succede in tutte le persone che fanno il Covid, assolutamente. Ci sono sicuramente delle predisposizioni che portano al long Covid. Stanno cercando di studiarle, ma ad oggi non ho visto grandi cose. Però, senz'altro, il sistema immunitario deve essere predisposto per sviluppare queste patologie. Ecco, quindi questi tipi di cure sono molto utili. Aggiungo a questa una terapia che io, siccome collaboro con Rinascimento Italia, quindi abbiamo fatto anche questo tipo di lavoro, che è quello di somministrare la acetilcisteina, che è l'antidoto per la spike, perché riesce a rompere il sito di legame che si trova nella spike, far sì che non si agganci i recettori. E quindi l'acetilcisteina è il principio attivo del Flumucil, per esempio, no? Se conoscete tutti. E Ecco, la CT cisteina può essere notevolmente potenziata nella sua azione denaturante, quindi di far cambiare la conformazione alla spike, dalle frequenze. Quindi si danno delle frequenze che in questo caso vengono fornite attraverso un braccialettino di grafene, quindi il grafene viene utilizzato come supporto per stabilizzare queste frequenze. Il grafene viene usato proprio come un braccialettino, quindi non c'è contatto praticamente con l'organismo, o comunque c'è un contatto di pelle perché passa per scambio ionico, da quello che mi spiegavano. Adesso è un processo di cui io non sono entrata nel dettaglio perché non sono, sono i fisici, gli ingegneri che si sono occupati di questo. Però quello che si è visto è che la spike con questo sistema è molto più potente nella sua azione di andare a disintossicare l'organismo dalla spike. Ecco, quindi questo è un altro strumento che viene messo a disposizione per eliminare la spike anche in caso di long COVID. Ecco, quindi si sta lavorando molto anche nel campo delle frequenze. Quindi questo è un po', diciamo, il quadro sulle terapie. Se volete, io ho fatto un piccolo documento riassuntivo, perché soprattutto ho lavorato soprattutto con il dottor Di Bella, perché lui cura i suoi pacienti che fanno la COVID, che dopo possono avere appunto delle conseguenze come long COVID e anche per il danno da vaccino. Ho fatto più questo grande lavoro soprattutto con lui, perché lo considero la persona più competente, ma anche che lavora sui pazienti più a rischio di avere delle complicazioni. Quindi ha buttato giù dei protocolli che ha messo a disposizione di tutti. Insomma, è ovvio che di fronte a un COVID complicato è sempre necessario farlo sotto controllo medico, perché poi le terapie vanno sempre personalizzate. Ecco, però insomma, potete utilizzarlo o per farvi seguire da qualche medico, o anche per fare entro certi limiti l'autocura. Ecco, questo documento voi lo trovate o in Spero, quindi scrivete Spero Studi e Salute e trovate la pagina con dentro un documento che si chiama Prevenzione Long Covid e danni da vaccino. Ecco, quindi questo documento qui racchiude un po' tutti i protocolli che sono ad oggi utilizzati sia per la cura del Covid, del long COVID e anche del danno da vaccino. Ecco, quindi questo è un po' quello che sono riuscita a fare ad oggi. Spero con la F. Spero con la F. Spero come spera al maschile. Spero. Che dopo magari Francesco ne parla con la piattaforma di scambio di beni serviti. L'ha già accennato, ma ci sono somiglianze con il danno da vaccino e il long COVID? Sì, purtroppo ci sono delle somiglianze e delle differenze sostanziali. Allora, abbiamo notato una cosa molto particolare, che le persone che hanno avuto l'infezione da SARS-CoV-2 all'inizio, quindi tra gennaio e febbraio-marzo 2020, sono quelle che hanno sviluppato le forme più importanti di long COVID. Questo probabilmente perché il virus era nuovo, nel senso che il sistema immunitario non aveva ancora imparato a riconoscerlo correttamente. Ecco, quindi, oppure con molta probabilità le persone non si sono curate in maniera corretta, ecco, perché non sapendo che c'era, le persone si sono curate come se si trattasse di una semplice influenza. Non le hanno curate. Sì, no, parliamo prima ancora che ci fosse il caso. Sì. No, allora diciamo che parliamo di quella parte di persone che si sono infettate prima che ci fosse la segnalazione che il Covid era arrivato qui in Italia. Quindi persone si sono curate da sole, o il medico pure le ha curate come una semplice influenza un po' complicata, e quindi non hanno fatto i trattamenti che hanno consentito poi di eliminare il virus dall'organismo, no? E, però quello che abbiamo notato è che tante patologie da long covid sono presenti anche nei danneggiati da vaccino. Perché? Perché i meccanismi del danno in parte sono sovrapponibili a quelli della malattia, ovviamente. Nel senso che se è la spike, la maggioranza, cioè la causa maggiore dei danni da covid e dei danni da vaccino, c'è una sovrapposizione. Quindi in questo caso qui abbiamo patologie legate all'intossicazione del sistema nervoso centrale, cioè quello che viene chiamato avvelenamento centrale, e con tutti i sintomi neurologici che sono veramente molto numerosi. Possiamo avere malattie autoimmunitarie dovute al fatto che la spike ha delle somiglianze strutturali con tantissime proteine umane, quindi possiamo avere reazioni autoimmuni su tanti tessuti del nostro organismo, e quindi anche qui il tessuto che viene attaccato dalla malattia autoimmunitaria è un fattore legato alla predisposizione individuale. Anche in questo caso diciamo che le malattie autoimmunitarie più frequenti purtroppo sono quelle che attaccano il sistema nervoso, ecco perché anche la mielina è una delle proteine che possono essere attaccate dagli anticorpi vaccinali. E possiamo avere danni cardiovascolari in entrambi i casi, perché la proteina spike si lega al recettore ACE2 in entrambi i casi, no? In questo caso possiamo avere problemi di pressione, quindi sbalzi di pressione che possono portare ad emorragie cerebrali, purtroppo, o a crisi ipertensive importanti. Però possiamo avere anche il deposito di microcoaguli nei piccoli vasi. Quindi questo qui purtroppo è una cosa che bisogna tenere in considerazione come patologia che si può sviluppare nel tempo. Anche con il long covid, diciamo che con i vaccini la formazione di grandi trombi sappiamo che è una delle cause non più frequenti, ma che per le quali abbiamo tante segnalazioni con i vaccinati come reazione a breve termine. Ecco, secondo me questa qui è una reazione che non era stata prevista dai produttori, probabilmente loro si aspettavano reazioni avverse ma più a lungo termine, nel senso che anche per i vaccini precedenti quello che si è visto è che la distanza tra il tempo della somministrazione e l'insorgenza del danno da vaccino è sempre stato abbastanza avanti nel tempo, per cui non era possibile fare dei collegamenti, quindi questo ha sempre salvato le industrie da poter fare qualsiasi tipo di riconoscimento di nesso di causa. Invece in questo caso qui purtroppo i danni sono proprio a ridosso della vaccinazione, sono proprio sotto gli occhi di tutti, no? Ecco, quindi queste reazioni avverse così imponenti sono quelle che si possono spiegare con il meccanismo del danno causato dal virus stesso e dalla spike. Diciamo che la spike ha anche un'altra caratteristica purtroppo importante. Adesso le segnalazioni non sono molto frequenti, quindi parliamo sempre di reazioni avverse rare, che sono dovute al fatto che questa proteina ha anche la capacità di cambiare conformazione in maniera reversibile, perché è fatta da tre proteine legate insieme, quindi è una proteina che viene detta è costituita da tre monomeri legati insieme, tre monomeri uguali, quindi tre proteine uguali legate insieme da punti di solfuro. Questo fa sì che la proteina possa cambiare conformazione in maniera reversibile. Se la conformazione la proteina viene fuori nella conformazione sbagliata, non riesce più a modificarsi e rimane in una conformazione irreversibile, patologica, che fa sì che la proteina diventi insolubile e indigeribile e può formare aggregati. Se questi aggregati si depositano nel cervello andiamo incontro a malattie degenerative. Quindi ci sono segnalazioni di persone che hanno sviluppato Alzheimer, Parkinson e encefaliti spongiformi, che è la malattia che abbiamo classificato come, identificato come mucca pazza, e proprio in conseguenza della vaccinazione. Ecco, quindi questa è purtroppo un'altra malattia che trovo che sia molto pericolosa, soprattutto negli anziani, perché teniamo presente che dopo una certa età questi aggregati ce li abbiamo tutti, che di solito in un caso non è nessun problema, però se vengono attivati in seguito a una vaccinazione, perché il tessuto si infiamma e in più abbiamo una proteina che fa da catalizzatore per la formazione di questi aggregati, rischiamo di far precipitare verso queste forme degenerative molto gravi nelle persone anziane. Ecco, quindi anche questo bisogna assolutamente tenerlo presente, e i produttori assolutamente non avevano dato nessuna indicazione sulla possibilità di questo meccanismo, perché avevano detto se la proteina, noi non possiamo sapere se la proteina quando viene prodotta in seguito alla replicazione, scusate, la traduzione dell'mRNA per esempio della Pfizer, viene fuori nella conformazione corretta, non possiamo saperlo. Quelle che vengono fuori nella conformazione sbagliata vengono degradate immediatamente. Questo ha scritto nel suo documento per l'EMA. In realtà adesso sappiamo che se viene fuori nella conformazione sbagliata non viene degradata, non si riesce più a eliminarla, perché diventa indigeribile e insolubile, portando a delle complicazioni importanti. Ecco, diciamo che il danno da vaccino ha una differenza sostanziale rispetto all'intenzione, perché bisogna tenere presente le due modalità che distinguono un'infezione da una vaccinazione. Allora, nell'infezione naturale noi abbiamo un contatto fisiologico dell'agente infettivo con le nostre mucose. Teniamo presente che il virus, il batterio, quello no, anche la tossina, deve passare una prima immunità costitutiva, che è formata da tutte quelle sostanze che vanno a impedire che il virus entri nelle cellule. Quindi abbiamo il muco, per esempio, che ricopre tutte le nostre mucose, il lisozima, che degrada gli involucri dei batteri, dei virus, quindi distrugge ancora prima che possa entrare nelle cellule, il pH acido del nostro intestino, del nostro stomaco. Quindi queste sono tutte barriere che impediscono al virus di proseguire nel suo percorso nell'infezione. Se riesce a superare queste barriere e entra nell'intestino, si trova comunque in una prima linea di difesa, che è l'immunità innata. Questa immunità è cellulare e fa un po' da spazzino, cioè ci sono delle cellule immunitarie che hanno la funzione di fagocitare, quindi proprio di mangiare batteri e virus, degradarli, eliminarli e se necessario di esporli all'altro sistema immunitario, che è quello che riconosce in maniera specifica quel virus o quel batterio, e quindi la memoria cosiddetta adattativa. Ecco, quindi questo più il sistema di difesa dato dai nostri batteri intestinali. Quindi vedete quante parti ci sono, quante fasi ci sono prima che una persona possa sviluppare un'infezione. Questa è in maniera naturale. Quindi l'immunità innata adesso sappiamo che fa una propria memoria addirittura, cioè riesce a ricordarsi che ha visto il SARS-CoV-2 ad un certo punto. E quindi si può attivare se vede di nuovo il SARS-CoV-2, una sua variante. Ugualmente, se il virus infetta l'organismo, si attivano anche le cellule che producono gli anticorpi specifici e anche le cellule che distruggono le cellule infettate. Questo però è un sistema abbastanza... il sistema innato è aspecifico, quindi non fa differenza tra un virus, un batterio, le sue varianti o altro, però hanno visto che comunque tende a rispondere in maniera più efficace se incontra lo stesso virus o lo stesso batterio un'altra volta. Nel caso invece della risposta adattativa, pur essendo molto specifica contro il SARS-CoV-2, siccome il SARS-CoV-2 ha tantissimi mutanti, si formano tante cellule specifiche per tanti mutanti, quindi abbiamo una risposta cosiddetta policlonale, ci permette di essere protetti anche contro le varianti. Quindi fatta l'infezione noi abbiamo veramente un armamentario di sistemi che ci possono proteggere nuovamente dall'infezione. Cosa succede invece nel momento in cui noi vacciniamo? Allora, la vaccinazione viene fatta con l'obiettivo di far sì che il nostro organismo produca degli anticorpi protettivi, cioè far sì che quando la persona incontra il virus vero, risponde producendo degli anticorpi che impediscono in qualche modo l'infezione da quel virus lì. Questo teoricamente, quindi diciamo che l'obiettivo sarebbe anche nobile, che è quello di impedire che la persona si infetti. Peccato che in realtà questo non succeda e non può assolutamente succedere. Perché? Perché dobbiamo tenere presente che il vaccino prima di tutto viene iniettato, ecco, quindi non c'è il contatto di quella parte del virus che viene considerata capace di indurre il sistema immunitario a formare anticorpi, bypassando le mucose. Quindi non ci può essere una risposta innata al vaccino. Ecco, quindi noi tagliamo via una buona parte di quella che è l'immunità che ci protegge nuovamente dalle infezioni. L'inoculazione, tra l'altro, ha un effetto che l'infezione normale non fa, cioè un effetto tossico locale. E soprattutto questo effetto tossico locale ci deve assolutamente essere, perché altrimenti il sistema immunitario non si attiva. Cioè se noi iniettiamo un vaccino senza che ci sia un effetto tossico, viene distrutto immediatamente nel sito di iniezione, senza, ancora prima che il sistema immunitario lo veda. Ecco, quindi questo effetto tossico porta alla stimolazione della produzione di un'alta quantità di mediatori dell'infiammazione. Questi fanno sì che il sistema immunitario, le cellule del sistema immunitario passano da sangue al sito di iniezione e vanno a captare il vaccino stesso e lo porta nei linfonodi, perché ci sia l'incontro con le cellule che poi portano alla produzione degli anticorpi. Questo è un po' il percorso. Questo stimolo tossico di solito viene indotto con la presenza di adiuvanti. Gli adiuvanti sono delle sostanze estremamente tossiche per il nostro organismo e devono esserlo, altrimenti non si ha questa infiammazione molto importante. Il problema è che ci sono delle persone che riescono a riparare il danno in tempi utili, sono persone che non lo riescono a riparare e in questo caso abbiamo il danno da vaccino. Però, allora, da un lato quindi c'è il danno tossico voluto indotto dal vaccino, perché è costruito così, e dall'altro abbiamo la risposta al patogeno, perché dentro il vaccino c'è un frammento del virus o del batterio contro il quale noi vogliamo avere gli anticorpi. Quindi c'è una duplice stimolazione tossica da patogeno e il sistema immunitario va in tilt, perché o ne gestisce uno o gestisce l'altra. Se ne deve gestire tutte e due, non riesce a riparare il danno. E quindi in questo caso qui il danno da vaccino è molto più frequente dei danni che può causare la malattia. Ecco, quindi questa duplice stimolazione può causare le stesse patologie che fa la malattia, però in maniera molto peggiore e con un'incidenza molto più alta, perché non c'è il riparo. Alle reazioni legate al patogeno, quindi la spike e l'induzione della tempesta di citochine, cioè di questi mediatori dell'infiammazione non controllate, dobbiamo anche aggiungere il danno dovuto ai componenti del vaccino che sono, diciamo, introdotti per la formulazione stessa del vaccino. Parliamo per esempio per la Pfizer, il liposoma. Ecco, il liposoma della Pfizer è di per sé stesso l'adiuvante del vaccino. Questo liposoma, i produttori stessi ci hanno detto che è molto tossico, fa epatiti, per esempio, che se ne parla molto in questi giorni, no? Ma non solo, può essere allergizzante, quindi causare anafilassi, ma può causare anche un'anafilassi ritardata, cosa che loro non tengono mai conto. L'anafilassi ritardata porta a trombocitopenia, trombosi e arresti cardiaci. Ecco, quindi questa è una reazione autoimmune, scusate, anafilattica, quindi allergica, al liposoma della Pfizer. Ecco, quindi vedete che anche questi componenti che non sono naturali, perché il liposoma della Pfizer è totalmente artificiale, fa sì che il nostro sistema immunitario reagisca in maniera piuttosto violenta. Questa cosa è in parte voluta perché altrimenti il sistema immunitario non si attiva, però quando la persona è predisposta può fare una reazione troppo violenta, ecco, quindi avere delle grandi conseguenze. La predisposizione vale anche il 72% della popolazione europea che ha mutazioni sulla coagulazione? Sì, cioè adesso le predisposizioni, adesso ne parliamo perché sono una cosa molto importante. Cioè, allora, e qui c'è un problema di fondo quando si parla di danno da vaccino, perché sapete che i medici, la maggior parte dei medici veramente risponde anche con una certa aggressività quando una persona ha un dubbio e dice: ma potrei aver avuto un danno da vaccino, visto che dopo prima stavo bene, ho fatto il vaccino e dopo sono stato male, no? Allora, la prima risposta è che è suggestione, no? E quindi di solito danno addirittura un valium o trattamenti per l'ansia alle persone, soprattutto se dicono che si sentono molto stanche, si sentono ansiose, cose di questo tipo. Invece questi sono reali danni da vaccino, no? Allora, da dove nasce questa incapacità di riconoscere il danno, no? Perché uno dice: ma è impossibile che i medici non riescano a rispondere correttamente, prendersi un minimo di responsabilità per andare ad indagare, no? In realtà il motivo c'è, ecco, perché? Perché quando una persona ha un danno da vaccino, prima di tutto il medico gli viene suggerito di non segnalare il danno, perché questo cosa comporta? Che le agenzie regolatorie che raccolgono le segnalazioni poi possono dire che siamo di fronte a una segnalazione di una reazione rara, di una reazione rara, quindi quel famoso 1 su 1 milione che ci hanno sempre propinato per tanto tempo. Quindi c'è un problema nella segnalazione passiva, ecco, perché la persona prima deve capire che forse c'è qualcosa che non va legato al vaccino, poi lo deve dire al medico e il medico deve fare la segnalazione. Quindi in questo percorso qui prendiamo il 90% delle reazioni avverse a breve e medio termine, quelli a lungo termine perdiamo completamente, perché il sistema più corretto per andare a vedere le reazioni avverse sarebbe la farmacovigilanza attiva, cioè prendere la persona vaccinata a tempi periodici definiti, fare la visita, fare le analisi, e fare l'analisi prima del vaccino, fare l'analisi dopo, che è quello che è stato suggerito per esempio per i militari, no? Nei militari si era fatto proprio questo ragionamento. Perché? Perché nei militari l'immunodepressione era veramente estremamente grave dopo i vaccini, e per cui io a quel tempo lì avevo suggerito di fare delle analisi per valutare se la persona, il ragazzo, aveva ancora l'immunodepressione grave all'atto della seconda vaccinazione che volevano fare, no? E quello che è venuto fuori è che la maggior parte dei ragazzi erano ancora in immunodepressione e quindi non andavano assolutamente vaccinati. Quindi fare le analisi nel tempo per vedere la situazione, lo stato di salute della persona, è il primo strumento che noi abbiamo per fare prevenzione del danno da vaccino, da un lato. E quindi il fatto di fare la vaccinazione dopo 3 mesi, per esempio, senza sapere qual è lo stato di salute della persona all'atto della vaccinazione, è gravissimo, perché lo esponiamo a dei rischi veramente importanti. E le analisi che devono essere fatte sulla base della conoscenza dei meccanismi del danno da vaccino, perché se io faccio l'emocromo è tutto a posto, mica vuol dire che la persona è a posto, perché devo fare le analisi dello screening trombofilico, per esempio, no? Andare a vedere se tutti i parametri della coagulazione sono a posto, devo andare a vedere gli anticorpi autoimmuni che non ci siano, devo andare a vedere l'immunodepressione, nel caso di pazienti che hanno avuto tumori, anche le cellule mielodi immunosuppressive, perché se sono aumentate la persona fa il vaccino e poi gli viene fuori il tumore, capite? Quindi questi meccanismi devono essere conosciuti per poter fare una valutazione più approfondita. A questo aggiungiamo che tante persone hanno anche dei polimorfismi nel proprio DNA che li predispongono per determinate patologie, che non sono malattie genetiche, sono predisposizioni alla malattia. Quindi la malattia insorge solo quando io do un determinato stimolo scatenante per la malattia, che normalmente è proprio il vaccino. Ecco, quindi una persona che ha una mutazione del fattore quinto di Leiden, che ha una mutazione del MTHFR, che il 60% della popolazione italiana ce l'ha, tanto per dire, ecco, oppure altri marcatori genetici, queste persone qui devono assolutamente essere esonerate. Cioè è l'applicazione del principio di precauzione esonerare le persone. Con questo vaccino qui significa salvare la vita a una persona. Perché se una persona ha fattori di predisposizione per la trombosi e la vacciniamo, la trombosi potrebbe anche ucciderlo. Ecco, quindi è sempre meglio applicare i principi di precauzione. Qual è il problema? Che, come ho detto prima, parliamo di patologie autoimmuni, patologie cardiovascolari, patologie tumorali, neurologiche e del sistema immunitario. Cioè, se noi prendiamo la fascia di popolazione dei 50 anni in su, praticamente nessuno può essere vaccinato. E quindi cosa hanno fatto? Cosa hanno deciso di fare? Cosa hanno deciso di fare? Vacciniamo lo stesso. Nel senso che loro, basandosi sul fatto che le segnalazioni sono notevolmente sottostimate, quindi tolti i primi 2-3 lotti, poi le segnalazioni non sono più state fatte, loro si sentono giustificare dal dire che non ci sono reazioni avverse, sono veramente rare. E tra l'altro, nonostante adesso i numeri delle segnalazioni di reazioni avverse siano veramente altissime, perché vi ho visto, parliamo di centinaia di milioni di segnalazioni, non vanno a fare lo studio del nesso di causa. Cioè il produttore non ha detto, sì, vabbè, abbiamo avuto questa segnalazione, ma la persona dice che ha un ematoma in testa, magari caduta per le scale, mica lo sappiamo, no? E quindi bisogna andare a fare lo studio del caso. Lo studio del nesso di causa andrebbe fatto sempre quando una persona segnala una reazione avversa per sapere se è veramente stato il vaccino oppure no. Ma questo è molto complicato. Cioè, tenete presente che se una persona è vivente io devo avere le analisi prima e le analisi dopo, altrimenti non capisco se magari la persona ce le aveva anche prima queste cose, no? Se la persona è deceduta, io devo prendere dei frammenti di tessuti, congelarli e andare a cercare i componenti del vaccino nei tessuti danneggiati. Bene, la maggior parte delle autopsie viene fatta in formaldeide e quindi non vengono congelate e quindi perdiamo l'informazione. C'è stato un solo caso in cui sono riusciti a trovare la spike del vaccino nei tessuti dell'organismo. Quello è stato un nesso di causa. Ma questo andrebbe fatto per tutte le persone che muoiono dopo la vaccinazione. Invece cosa sentiamo? Persona è deceduta, dopo 2 giorni non c'è correlazione. Cosa ci stanno dicendo? Che non lo sanno, perché non è possibile. I correlati ora sono 16, pare. Beh, allora bisogna vedere se hanno definito il nesso di causa. Perché la correlazione temporale ci può essere, bisogna vedere se trovano la spike, i componenti del vaccino nei tessuti. Questo è il problema, perché finché non si fa questo percorso, poi alla fine ti dicono che è stato qualcos'altro. Ecco, tra l'altro c'è un altro problema di fondo, che questo ci permetterebbe di definire con chiarezza se è stato il vaccino veramente a causare quel danno. Però, quando non si sa, e l'EMA per esempio riceve una segnalazione, cosa fa? E fa entrare questa segnalazione in un algoritmo dell'OMS. E questo algoritmo è una serie di domande. Prima domanda è, la persona ha altre patologie in corso? Sì, bene, non andare dal vaccino. Supera questo, magari non ci sono danni, non ci sono altre patologie. La persona ha predisposizioni genetiche, magari si fanno le analisi genetiche, si vede che ha la MTHFR, sì, ci sono predisposizioni, non andare da vaccino, perché vuol dire che è stato quell'altro, no? E il terzo è, ci sono articoli scientifici che negano che questo è un danno da vaccino, cioè che negano la correlazione tra la vaccinazione e questa particolare patologia, esempio autismo, caso diciamo piuttosto emblematico, no? Sono 300 studi che negano il legame tra la vaccinazione del morbillo e l'autismo. Basta anche un solo studio che dice che quello non è un danno da vaccino e necessariamente non è un danno da vaccino. Dopo l'ultima è, durante gli studi clinici è emerso che questa era una reazione possibile dopo la vaccinazione? No, perché i produttori cosa fanno? Studiano solo le reazioni avverse all'atto dell'iniezione, per cui tutto quello che viene dopo non viene registrato dai produttori, perché loro possono fare solo quello che avviene nei primi giorni, poi non hanno più la possibilità di seguire i pazienti, quindi poi nemmeno li ricevono queste segnalazioni. Quindi durante gli studi clinici non vengono viste le reazioni a medio e lungo termine, si vedono solo quando si va sulla grande massa, sulla popolazione. Bene, se non ci sono reazioni avverse che vengono segnalate dai produttori nel corso degli studi clinici, non andranno da vaccino. Alla fine restano solo le reazioni avverse indeterminate, cioè tutte quelle che non rientrano in queste categorie, essendo indeterminato, non andranno da vaccino. Capite? Cioè con questa strategia qui non c'è verso di dire che una determinata segnalazione è realmente un danno da vaccino. Cioè io ho visto adesso la lista della spesa delle reazioni avverse che sono state segnalate all'EMA e la risposta della Pfizer ha scritto che non c'è correlazione per nessuna di queste. Nessuna. Cioè ad oggi... Se lo dici a quello che ti vende il prosciutto è sempre buono, insomma. Lo sappiamo, no? Voglio dire, allora... Cioè, proprio così non c'è nessuna possibilità di niente. Il motivo per cui io mi sono imposta a dire di non fare i vaccini è anche questo, perché poi non vengono riconosciuti i danni, non vengono indennizzati, non vengono pagati. Perché? Perché le aziende hanno uno scudo penale, civile e tutto, per cui non pagano, le industrie non pagheranno mai. Paga il nostro governo, ci paghiamo noi, però il governo cosa fa? Non paga mai, per questo motivo qui, perché utilizza l'algoritmo dell'OMS per dire se quella è una reazione avversa al vaccino e necessariamente viene sempre fuori che non lo è. Vi faccio il caso anche delle predisposizioni genetiche, cioè io ho avuto un caso, non parlo del Covid, parlo in generale, ho avuto una bambina sanissima che ha fatto la vaccinazione ad un anno di età, dopo una settimana era tetraplegica, ok? Quindi questa bambina qui poi è morta l'anno scorso a 10 anni e cioè il nesso temporale era evidente, poi tra l'altro la bambina aveva fatto tutte le analisi proprio qualche giorno prima della vaccinazione, aveva fatto le analisi, cioè, come si dice, la visita dell'anno di età, per cui era stata riconosciuta idonea per la vaccinazione, cioè sana da tutti i punti di vista, e quindi non c'era motivo per cui non dovessero riconoscere un danno da zero. Bene, sono andati avanti 5 anni a fare analisi genetiche sulla bambina, finché hanno trovato un bruscolo sul DNA, hanno detto quello, perché c'era la predisposizione genetica per loro. Cioè, capite che siamo incastrati in un sistema che non ci permette di fare così, a meno che non facciamo come vi ho detto prima, cioè si fanno le analisi prima e si fanno le analisi dopo, perché là li incastriamo. Cioè se la persona ha per esempio la spike vaccinale in circolo quando non dovrebbe assolutamente esserci e la persona si sente male, cioè ha dei sintomi da danno da vaccino con quantità elevate di spike vaccinali in circolo, che ripeto, non deve essere in circolo la spike, non ha nessun motivo per esserci, questo possiamo parlare di danno da vaccino, come pure trovare la spike vaccinale nel cuore o nel cervello o in altre zone dove non ci dovrebbe assolutamente essere. Questo è l'unico sistema, ma viene ostacolato proprio dai medici che devono fare questi accertamenti. Ecco, io spero che prima o poi si arriverà anche ad una situazione in cui i procuratori che ricevono gli esposti o i medici legali, gli anatomopatologi, andranno avanti a fare degli studi in maniera più indipendente e seria. Però vi assicuro che in questo momento qui è completamente blindato. Scusi, una domanda, ma ad esempio l'aumento enorme di morti per malore, morti per tutta una serie di patologie, lo so che non dovrebbe essere così il metodo scientifico, però che è un'evidenza che nel giro di pochi anni, cioè da quando c'è la vaccinazione... Allora, anche qui questo è un altro problema, eh? Un altro problema importante che è la valutazione del beneficio rischio. Bene, allora, voi sapete che i morti da Covid, le persone contagiate, sono dei numeri abnormi, che non sono reali, eh? Nel senso che se noi andassimo a vedere le persone che sono morte solo da Covid, penso che siano un centinaio di persone, perché tutti gli altri erano persone che sono morte con il Covid e tra l'altro sono morte... probabilmente, anzi sicuramente la stragrande maggioranza per altre patologie, perché il fatto che una persona avesse il tampone positivo veniva segnato come diagnosi da Covid, è gravissimo, perché la presenza di un virus non significa affatto che la persona abbia la malattia causata da quel virus lì, per cui sono state segnate come morte Covid, morti Covid anche pazienti oncologici terminali, oppure persone che avevano fatto un attacco cardiaco, o persone che morivano per altre patologie assolutamente non connesse con la Covid, perché la Covid è una malattia ben precisa, ha un quadro clinico ben definito dal punto di vista delle analisi, strumentali, eccetera, si fa diagnosi di Covid. Ecco. Invece hanno utilizzato il tampone, che doveva essere solo uno strumento da utilizzare in caso di dubbio, cioè quando non si sapeva se la persona aveva realmente la Covid, aveva un'altra infezione, come diagnosi differenziale, utilizzare questo strumento in più, se non c'era chiarezza, invece l'hanno utilizzato in maniera strumentale, che sappiamo benissimo l'hanno utilizzato per fare il lockdown e per aumentare a dismisura i numeri, farli lievitare per i numeri da Covid e dei morti da Covid. Quindi l'EMA cosa ha risposto? Beneficio rischio sempre positivo. Perché tanto i numeri di persone che muoiono da Covid saranno sempre di più di quelli che muoiono da vaccino. Per cui loro hanno già risposto. Possiamo anche accettare il sacrificio di un po' di persone che muoiono da danno da vaccino per salvarne 10 volte, 1000 volte di più da Covid. Però questi sono dati fasulli, perché come vi ho detto prima, i dati del numero da vaccino, di danni sono sottostimati del 90%, e dall'altra parte abbiamo dei numeri Covid che sono stati ingrossati in maniera eccessiva. Questo senza togliere la drammaticità di una persona che muore da Covid, ma è drammatico anche la persona che muore da vaccino, qual è la differenza? No? Bisognerebbe avere rispetto per entrambi e poi andare ad analizzare perché quella persona è morta da Covid. È morta perché hanno fatto tachipirina a vigile attesa, per caso. Non l'hanno curata in ospedale per aumentare il numero di morti, perché c'è stata anche questa strategia per aumentare il numero di morti non curandoli. Ecco, quindi questi sono tutti argomenti che sono stati discussi, sappiamo anche che c'è un CTS indipendente dove c'è Donzelli, Satraiese, Badavita, che si stanno lavorando molto su questi dati epidemiologici per smontare appunto quello che si sta dicendo. Hanno avuto anche dei risultati importanti, però non si stanno schiodando dall'altra parte, cioè continuano a dire che comunque la Covid rimane un problema estremamente più grave rispetto al danno del vaccino. Ecco, quindi non è semplice, per cui la resistenza che noi possiamo fare è quella proprio nel negare la vaccinazione, cioè organizzarci in reti e fare altro, che ci permettono poi di essere autonomi, cioè la possibilità di non cedere più al ricatto. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, perché la dipendenza in cui ci hanno messi progressivamente, perché questa è una cosa che va avanti da decenni, forse anche centinaia di anni, di portarci a questa dipendenza totale dal sistema per poter poi dire bene, adesso fai tutto quello che dico io, no? E lo stanno facendo, hanno dimostrato di farlo, no? Ma questo non significa che noi possiamo fare un percorso inverso e cercare di sganciarci da questa dipendenza in maniera da non dover più cedere al ricatto. Sì. Scusate un attimo, ho una domanda dalle persone che ci seguono online, è un po' indietro rispetto a dove siamo, chiedeva: secondo quale principio il virus entra nell'intestino? Allora il principio è che è un enterovirus, per cui deve essere ingerito, cioè noi effettivamente entriamo in contatto attraverso l'esterno, ecco, quindi possiamo sicuramente respirarlo, si localizza nelle altre vie respiratorie, ma poi deve essere ingerito. Quindi possiamo ingerirlo anche attraverso l'acqua, attraverso gli alimenti. Ecco, tenete presente che io la prima osservazione che avevo fatto con un gruppo di lavoro proprio sulla Covid, parliamo febbraio 2020, e avevamo chiesto, ma si è già risposta ovviamente, che venisse fatta l'analisi dei reflui, venisse fatta l'analisi dell'acqua, prima di decidere se fare il lockdown, perché ad un certo punto, se il virus è già diffuso nell'ambiente, è inutile che facciamo il lockdown, perché ce lo beviamo con l'acqua, prendiamo con gli alimenti. Quindi adesso, per esempio, anche l'anno scorso, parliamo del 2021-2022, non aveva nessun senso il distanziamento, non aveva nessun senso tenere le persone chiuse o altro, perché avevamo già una diffusione tale, ambientale, del virus che ce l'abbiamo praticamente dappertutto. E quindi non possiamo proteggerci dal virus con queste modalità, soprattutto non possiamo proteggerci con una mascherina. Non so se avete avuto modo di vedere gli ultimi risultati sulle mascherine, sono imbarazzanti. Cioè, ci dicono che le mascherine aumentano il rischio di morire di Covid, perché le persone mandano il virus che si localizza a livello delle mucose, delle altre vie respiratorie, con la mascherina finisce nei polmoni. E quindi c'è il rischio che la persona faccia la polmonite da Covid proprio a causa della mascherina. Ecco, tra l'altro, mascherina fa da filtro. Con il respiro, l'espirazione, viene fuori aria calda, piena di CO2, che alimenta la proliferazione dei virus e dei batteri. Per cui una persona che ha la mascherina mi contagia molto di più di una di quelle che non ce l'ha, per dire. E in più hanno trovato un altro danno che io non avevo ancora, a cui non avevo ancora pensato, che è l'accumulo di microplastiche, cioè delle fibre che si staccano dalla mascherina, viene respirata e finisce nei polmoni. Ecco, quindi questo è un altro danno che si vedrà nel tempo, quale potrà essere. Cioè, pensate ai bambini che sono stati costretti a mettere le mascherine, che adesso si trovano in polmoni pieni di plastica. Ecco, quindi questi sono gli omaggi di una politica sanitaria senza senso. Non so se ho risposto a sufficienza alla... Penso di sì, ce lo dirò. Prego. Okay. Per le mascherine di cotone, aspetta, finisco. Ma anche per le mascherine di cotone? Le mascherine di cotone non servono assolutamente a niente, cioè sono proprio un accessorio di vestiario. All'inizio molti hanno usato quelle. Sì, allora, piuttosto di quelle di plastica, sì. Diciamo di fibre sintetiche sì, però sono proprio un bestiario, appunto, tanto per donne musulmane che se ne fa questa roba, cambia niente. Okay. Non servono proprio niente. Una domanda sul tema della farmacovigilanza, sì. Ritengo che sia assolutamente scandaloso che in 2 anni non sia neanche stato fatto un progetto pilota di farmacovigilanza attiva. Ecco, e tra l'altro abbiamo anche un decreto legge del 2015 che regolamenta la farmacovigilanza, che impone al personale sanitario di fare le segnalazioni entro 48 ore per i farmaci e per quelli biologici entro 36 ore. Sì. Per cui c'è un triangolino nero nelle schede tecniche che dicono che questi vaccini sono in monitoraggio addizionale. Cosa significa? Che c'è un obbligo di legge per andare a segnalare tutte le reazioni avverse, anche quelle lievi, per tutta la durata degli studi clinici. Invece loro cosa hanno fatto? I primi, non so se avete visto, i primi lotti c'erano numeri elevati di reazioni avverse segnalate, e poi non sono più stati fatti, tanto appunto che negli ultimi lotti non ce ne sono praticamente più. Così hanno detto, i primi lotti erano pericolosi, gli ultimi no, perché non c'erano segnalazioni. No, i primi lotti facevano le segnalazioni, adesso non fanno più. Dai, sì sì, ma è perseguibile per legge, però noi li abbiamo fatto, ma non è servito a niente. Ecco, non ci sono magari delle iniziative invece alternative a... quelle che sì, avrebbero... ci sono dei gruppi che stanno raccogliendo le segnalazioni in maniera indipendente, però essendo raccolte non controllate, perché questa dovrebbe essere fatta dall'azienda o dall'ASL, cioè dovrebbe essere un sistema pubblico che si preoccupa di fare questa raccolta, non so poi quale validità abbia, perché poi non vengono studiate per il nesso di causa. È un problema molto grosso, è stato segnalato molte volte, non... le dico, la situazione per i militari è gravissima, cioè i militari vengono vaccinati in aereo mentre vanno in un teatro operativo e poi gli dicono sei protetto quando scendono dall'aereo e così si espongono al rischio di malattia, perché lì loro veramente vanno in zone dove ci sono veramente le epidemie, cioè non è come qui che uno dice il vaccino per la polio che non serve a niente, tanto il vaccino, il virus non c'è più, vanno veramente in zone dove c'è il colera, dove c'è la febbre gialla, dove, ecco, quindi vengono vaccinati e gli viene detto che sono protetti con questa tipologia di sistema e poi non sappiamo nemmeno se vengono vaccinati che stanno già male da quelle fatte precedentemente, per cui li esponiamo immunodepressione, quando vanno lì sono immunodepressi e si ammalano ancora più facilmente. Cioè, tanto per dirvi la gravità della situazione, cioè se si nega il danno va bene qualsiasi cosa, perché tanto fare il vaccino secondo loro è sempre una strategia migliore che non farlo. Ma perché non mi mettono in conto il danno da vaccino? Ecco, al limite ti dicono, al limite non funziona, ma e quindi ti rivaccinano, ancora peggio. Due domande velocissime. Una è se il virus che abbiamo visto essere ingegnerizzato e che non riesce a sganciare il frammento inserito ha il tempo di inserirsi con la trascrittasi inversa nel nostro DNA esattamente come fa la mRNA del vaccino, e l'altro è, essendo un virus intracellulare, quindi noi stiamo utilizzando molte macrolidi proprio per questo, se è opportuno cambiare comunque antibiotico quando facciamo un primo attacco per evitare comunque la resistenza agli antibiotici. Allora, prima domanda, bisogna distinguere i tipi di vaccini, no? Nel senso che noi abbiamo avuto in commercio, abbiamo tuttora, i vaccini ad vettore adenovirale, quindi AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sputnik V, sono a vettore adenovirale. Questi qui si integrano nel DNA, perché purtroppo devono passare la membrana nucleare e restano all'interno del nucleo. Quindi questo aumenta il rischio di integrazione e modificano quindi la sequenza del nostro DNA. Questi vaccini qui hanno anche un altro problema, che sono altamente contaminati di cellule fetali umane, cancerogene. Ecco, quindi questo materiale qui, anche qui hanno fatto, c'è un problema a livello di letteratura perché hanno fatto più studi, quindi non ce n'è solo uno, ci sono più studi fatti su contenuto di proteine umane, quindi studio in spettrometria di massa, ma non si sono azzardati ad andare a studiare il DNA fetale contenuto in questi cellule per vedere se è dentro il vaccino, perché questo DNA qui è cancerogeno e si integra al 100% quando entra nelle cellule, quindi è a rischio di integrazione nel ricevente del vaccino. Quindi questo vaccino qui è un vaccino cancerogeno, appunto. Ecco, adesso è stato ritirato dal commercio, però i rischi comunque restano per chi ha fatto l'AstraZeneca. Dopo anche qui bisognerà cercare di capire se questo vettore può andare incontro ad una degradazione, cioè come si può cercare di eliminarlo dall'organismo, ecco, perché comunque lo ritengo un vaccino particolarmente pericoloso, purtroppo, anche da questo punto di vista. Quello ad mRNA, penso che molti lo sappiano, è stato fatto uno studio su una linea cellulare di fegato cancerogena che produce un'altissima quantità, cioè una notevole quantità di trascrittasi inversa, per cui hanno dimostrato che questo mRNA può essere retrotrascritto, però non hanno assolutamente dimostrato che questo retrotrascritto è in grado di superare la barriera nucleare e integrarsi, quindi non sappiamo se si integra assolutamente, sappiamo che in condizioni estreme si può retrotrascrivere, quindi assolutamente non abbiamo nessun dato sulla capacità di integrarsi. Però ci sono due fattori che devono essere tenuti in considerazione, di cui non si parla mai, e cioè che l'mRNA vaccinale, come l'mRNA del SARS-CoV-2, quindi anche il virus, possono scambiarsi pezzi con altri virus simili, o possono scambiarsi pezzi anche con gli RNA delle proteine umane. Quindi la ricombinazione dei materiali genetici tra di loro è frequentissima. Allora c'è il rischio, e allora qui con l'Omicron non l'abbiamo visto, cioè la Delta si è ricombinata con un coronavirus umano del raffreddore e ci ha fatto una nuova variante, no? È venuta fuori l'Omicron. Quindi queste cose qui in natura succedono molto facilmente. Allora se il vettore dell'mRNA della Pfizer, per esempio, si ricombina con un retrovirus, cosa possibilissima, il retrovirus porta dentro il DNA della cellula frammenti dell'mRNA del vaccino. Questo è un percorso invece che è possibile. Diciamo che in realtà i danni maggiori che vengono fatti al DNA, e quindi la maggioranza dei danni genetici, viene fatta per interferenza genica epigenetica. Cioè i vaccini, sia quelli dell'AstraZeneca sia questi della Pfizer, non modificano tanto la sequenza, cioè quello dell'AstraZeneca si vedrà, bisognerà capire l'incidenza, perché anche questo viene considerato un meccanismo estremamente raro, perché ci sono tutta una serie di meccanismi, attenzione, le nostre cellule hanno dei meccanismi molto fini e molto efficienti per evitare l'integrazione, cioè non è che solo perché si può fare succede, perché succeda devono essere disattivati i meccanismi che impediscono l'integrazione, perché il nostro DNA non accetta l'integrazione di virus e di altro agente che può modificare il suo DNA, quindi questi sistemi sono altamente regolati. Ecco, il problema qual è? Che l'interferenza genica modifica l'espressione dei geni, quindi mi può attivare degli oncogeni o silenziare degli oncosoppressori. Quindi l'effetto cancerogeno di questi vaccini è legato a questo tipo di interferenza, che può essere nei geni del DNA stesso, oppure l'interferenza nella produzione delle proteine umane. Questo meccanismo qui di interferenza genica i produttori lo sapevano, perché la Pfizer, prima di registrare questi vaccini, aveva appena fatto autorizzare dall'FDA un farmaco anticancro che funziona per interferenza genica, e non sono andati a studiare per questi vaccini qui. Quindi capite che c'è stata una grave violazione dei principi di precauzione, anche da questo punto di vista. Ecco, quindi direi che il meccanismo è più epigenetico, sì. Per avvicinarsi... Scusa. Buongiorno. Sì? La domanda sugli antibiotici, sulla resistenza agli antibiotici, se dobbiamo continuare a usare macrolidi oppure no? Sì, sì, secondo me sì, bisogna fare un po' di attenzione, nel senso che dovreste cercare di dare un po' il giro agli antibiotici per il fenomeno della resistenza, questo senz'altro. Ma dai macrolidi passare a che cosa allora? Qui guardo, dovrei metterti in contatto con qualche medico che sta studiando questa cosa, perché hanno visto una forma di resistenza ultimamente, anche alla idrossiclorochina sembra che abbiano avuto delle resistenze. Ci sono degli antibiotici che stanno testando nuovi che sembrano efficaci, ma a questo punto io direi che si potrebbe addirittura cercare di andare più verso una forma diversa, tipo il diossido di cloro, che è molto più specifico, o anche l'ossigeno d'onoterapia, visto che c'è il discorso intestinale, cioè cercare di evitare l'uso prolungato del solo 2 anni che utilizziamo gli stessi antibiotici, può diventare un problema poi di farmacoresistenza. Eudravigilance è l'organismo europeo abilitato a ricevere tutte le notifiche della velocità di tutti i farmaci. Sì. Per quanto riguarda la sezione Covid-19, ben distinta tra tutti i vaccini, ci sono tutte le avversità. Ma allora, sulla base della difficoltà che ci ha appena enunciato sulla registrazione e sulla validità delle avversità, qui si sta parlando di centinaia di migliaia di morti e di milioni di avversità. Già ora registrato, ogni 10 del mese vengono aggiornati i dati. Ma allora questi dati qui si possono ritenere attendibili? Com'è che è così difficile? E invece ci sono tutti morti, ci sono tutti questi morti. E poi abbiamo sempre vissuto in un periodo in cui tutte le avversità, alla minima esistenza di anche pochi casi di morte, i farmaci sono sempre stati levati dalla circolazione. E quindi qui invece si continua a livello mondiale continuamente. Guarda, sì, infatti questa qui è una situazione estremamente grave, che però vale per tutti i vaccini. Cioè, mentre i farmaci normali, la persona lo assume il farmaco per curare se stessa, non lo fa per un beneficio collettivo. Cioè, se ho mal di testa, prendo qualcosa per il mal di testa per curare me, non perché c'è un beneficio collettivo da questa cosa. I vaccini sono l'unico farmaco che permettono il controllo del singolo, perché dicono tutti i vaccini perché dobbiamo fare l'effetto gregge per un beneficio per gli altri, collettivo principalmente. Motivo per cui si vaccinano i bambini, perché i bambini non avrebbero nessun motivo di essere vaccinati, non fanno la malattia grave, la mortalità è tendente a zero a livello mondiale per i bambini, quindi loro non hanno nessun beneficio per se stessi. Vengono vaccinati per un beneficio per gli altri, che non ha senso. Quindi quando si fa il beneficio, rapporto beneficio-rischio nel caso del vaccino, il beneficio è collettivo, quindi il sacrificio del singolo per loro vale la pena nel rapporto beneficio-rischio. Quando sappiamo benissimo che abbiamo tutte le dichiarazioni internazionali, anche nella nostra Costituzione o altro, che il bene collettivo non può superare il bene del singolo, quindi io non posso sacrificare il singolo per fare del bene agli altri, a meno che sia il singolo stesso che volontariamente lo fa. Ma qui parliamo di vaccinazioni coercitive praticamente, perché quando ti dicono ti devi vaccinare per lavorare, questa è una coercizione. Ecco, quindi questa è una violazione palese di tutti i diritti umani, tutti. Ecco, però sappiamo bene che non abbiamo risposta, e ripeto, questo non è solo per il Covid, vale per tutti i vaccini, indistintamente. Perché vi dico, quando è venuto fuori il vaccino per il papillomavirus, che hanno fatto le ragazzine, un vaccino inutile, perché adesso, come adesso, non sappiamo se effettivamente farà quello che dice di fare, cioè proteggere dal tumore all'utero, quello grave, quindi quello maligno, le persone che svilupperanno l'infezione. Questo è un dato che ad oggi non si sa. Ecco, a fronte di una casistica di danni da vaccino che fa paura per quel vaccino lì. Ecco, quindi a fronte di qualcosa di indeterminato che sapremo tra 30 anni, ci stanno vaccinando intere popolazioni, intere generazioni di ragazzine e ragazzini anche per questo vaccino. Adesso noi sappiamo che questo è un vaccino cancerogeno, cioè dovrebbe proteggere dal cancro e far venire fuori altri tumori. Questo per il papiro. Eppure non si sono fermati, cioè voi avete visto che abbiano detto interrompiamo la vaccinazione contro il papillomavirus adesso che sappiamo che è cancerogeno. No. Cioè non, questa gente non si fermerà, può essere che quando hanno fatto abbastanza soldi, allora probabilmente diranno sì, va bene, ci sono dei danni, però probabilmente il vaccino ce lo troveremo dentro l'antinfluenzale annualmente, lo faranno gli anziani, come fanno sempre, e quello ci teniamo, perché poi loro ci devono guadagnare. Cioè, tenete presente che il vaccino contro l'H1N1 del 2009, non so se ve ne ricordate, bene, voi sapete che già l'anno dopo l'H1N1 non c'era più, e, però il vaccino è dentro l'antinfluenzale. Fanno tutti gli anni quel vaccino lì, a cosa serve? A niente, perché il virus non dovrebbe nemmeno essere circolante. In compenso è la causa del potenziamento della malattia del vaccino antinfluenzale, cioè loro hanno visto che praticamente andando a somministrare negli over 65 il vaccino che ha dentro l'H1N1, i vaccinati hanno un 50% in più di possibilità di sviluppare una polmonite grave ed essere ospedalizzati e un 12% in più di morte rispetto ai non vaccinati. Questo si chiama potenziamento della malattia, portato al Ministero della Salute, perché questo è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè non uno studio che ha fatto qualcun altro, l'ho fatto loro, e ci hanno detto le faremo sapere. Questo io l'ho portato nel 2017. Devi ancora sapere. Esatto. Quindi capite che siamo di fronte a... vorrei sapere, virus ingegnerizzato e chimera. Ho letto spesso nei laboratori questo termine. Vorrei capire se l'organismo, il nostro organismo, che è abituato da milioni di anni, diciamo così, a combattere col suo biota gli organismi naturali, virus naturali, come viene a contatto con queste invece, diciamo così, chimere, e come reagisce? Sì, sappiamo qualcosa. Esatto, come dicevo all'inizio, loro sono riusciti a naturalizzare il virus. Non solo l'hanno geneticamente modificato, ma sono riusciti anche a far sì che questo si comporti come un virus a tutti gli effetti naturale. Quindi il sistema immunitario reagisce come se fosse un virus naturale. Ecco, questo sì, che è una cosa che in realtà non si faceva, cioè fino a pochi anni fa questa cosa non era possibile. Perché, sinceramente non so nemmeno io quale sia la procedura, perché tutto coperto da segreto militare, no? Industriale, militare è coperto, no? Questa roba qui, quindi è impossibile sapere cosa hanno fatto. Eh sì, perché l'hanno fatto in un laboratorio militare, questo. Il laboratorio di Wuhan, lo stesso laboratorio che stava facendo gli studi per l'OMS, nella figura della stessa persona, quindi lo stesso ricercatore, stava lavorando su SARS-CoV-2 anche per i militari. E quindi nel momento in cui loro hanno creato questa roba qua, è passato sotto i militari. E quindi hanno blindato tutto, non è possibile sapere cosa hanno fatto. Scusa, qua giù in fondo, poi vengo. Sì. Sì, dottoressa, lei sa che nel gruppo di medici con cui collaboriamo, utilizziamo anche nel post-COVID, ma anche durante la malattia, la CRACU. Sì. Che è gli antiossidanti ad alta dose. Sì. Anche in infusione, che è ovviamente certo più complicata da portare avanti, esatto. Però nei casi in cui c'è una gravità nella malattia o anche un long covid che si insinua, è difficile da fare, insomma si può utilizzare anche questa come alternativa, che è molto importante, certo. Ovviamente sappiamo che per via orale è meno assorbibile, ci vuole magari la forma di cotoneale del glutatione, esatto. Ecco, però ha dato buoni risultati, magari più fruibile, più facile, sì, sì. Infatti nel documento che ho scritto parlo proprio anche della crapula, in effetti la terapia per il danno da vaccino e anche le forme complicate da Covid, sì, dicevo, ci possono essere varie tipologie di trattamenti, no? Quindi possiamo parlare di un trattamento come sigillosanoterapia, la narraterapia, anche questa funziona molto bene per alcuni tipi, però diciamo i fondamenti del trattamento sono basati sul meccanismo del danno, no? Quindi noi sappiamo che abbiamo una forte infiammazione, una tempesta di citochine, di mediatori dell'infiammazione importante, radicali liberi. Questa viene combattuta, si può limitare i danni di questa tempesta di citochine con l'utilizzo di antiossidanti ad alte dosi, quindi vitamina C, acetilcisteina e glutatione, che sono i tre che vengono associati sempre. A questo si può mettere anche un agente metilante che va ad agire sulle modificazioni epigenetiche che vi parlavo prima, no? Quindi va a sistemare anche il DNA dal punto di vista epigenetico, quindi aiuta il sistema immunitario a riparare i danni fatti. A questo dobbiamo aggiungere alte dosi di vitamina D, che è un immunomodulante, e fa anche da prevenzione per le patologie autoimmunitarie. Ecco, quindi parliamo qui di dosaggi non meno di 10.000 unità al giorno, quindi sostenute, e a questa poi noi possiamo aggiungere terapie che sono mirate per la persona, perché se la persona è predisposta per la trombosi si farà una prevenzione o cura specifica per quello, se ha sintomi neurologici ce ne saranno di altri, per esempio se la persona ha la perdita del gusto dell'olfatto protratta dopo l'infezione, oppure sintomi da avvelenamento centrale, si è visto comunque che la acetilcisteina effettivamente a dosaggi più alti è molto efficace nell'andare a correggere questi tipi di sintomi. Tra l'altro c'è un prodotto che sembra sia specifico per la perdita del gusto dell'olfatto in caso di infezioni, che si chiama Grialdia. Questo prodotto qui supera la barriera ematocefalica, ha un effetto specifico per questo. Quindi diciamo che si può fare prevenzione. Ecco, la prevenzione però, come per la terapia per il Covid, deve essere precoce. Quindi noi, anche con il vaccino, se la persona purtroppo dice io voglio vaccinarmi o perché è ricattata, però andrà sicuramente a vaccinarsi, si fa una prevenzione, si cerca di intervenire anche prima, sarebbe meglio non far vaccinare la persona in qualsiasi caso, però teniamo presente che se noi vogliamo far sì che una persona non si vaccini, bisogna aiutarla, quindi qui le reti di mutuo aiuto diventano fondamentali. Siamo una comunità, ecco, persone che vengono ricattate, se non vengono mantenute finché non trovano un altro lavoro, finché non si sistemano, cioè, bisogna aiutarle a pagare la bolletta, comprarsi una roba da mangiare, cioè, non so se mi spiego, oppure gli si dà un sistema perché lavorino facendo qualcos'altro. Ecco, quindi questo è un momento veramente di aiutarci, perché non è accettabile che una persona dica devo andarmi a vaccinare. Anche perché se si fa questo, si robustisce ancora di più il sistema. Capite? E non riusciamo più. Ecco, quindi, detto questo, la prevenzione, ripeto, del danno da vaccino dovrebbe iniziare il giorno stesso che la persona si è vaccinata e andare avanti anche per diverso tempo e tenere controllata la persona con le analisi. Ecco, e dopo io, se una persona sta bene, perché non tutti hanno danni da vaccino, perché una domanda frequente è, vabbè, ma allora saremmo tutti morti, no? Se fosse così tutti quanti ce l'avrebbero. Attenzione, perché le predisposizioni individuali al danno sono molto diverse da persona a persona. C'è chi ha anche un sistema di riparo importante che agisce subito e fa sì che la persona non abbia reazioni. come potrebbe avere un sistema immunitario allergico per cui non risponde al vaccino, però magari questi danni si vedono più a lungo termine e soprattutto si vedono più continuiamo a vaccinare. Non è accettabile superare le 3 vaccinazioni adesso. Persone che hanno già fatto 3 dosi sono già immunodepresse, sono già a rischio di infettarsi o, e non riuscire a superare una malattia infettiva. Ecco, quindi veramente è stata fatta una strategia per cui persone inizialmente sane adesso più vengono vaccinate più diventeranno soggetti fragili e quindi vaccinabili ancora di più per loro. Ecco, perché ho avuto questi casi qui, diciamo, una persona sana, fatto il vaccino, fatto la seconda dose, dopo la seconda dose ha fatto una trombosi, è passata nella categoria dei fragili, quindi è arrivata la terza dose, con l'obbligo di farla, allora anche sospeso. Ecco, quindi, capite, queste cose paradossali che non, veramente non hanno... che non si spiegano, però si spiegano in base a tutte le cose che vi ho detto prima da adesso, purtroppo. Ho una curiosità, se la proteina spike del virus ha la stessa azione della proteina spike del vaccino? Cioè... Sì, è quello che ho detto fino adesso. No, proprio così, scusa. No, no, infatti c'è una sovrapposizione tra i danni da spike da naturale e i danni da spike da vaccino, proprio perché la proteina è molto simile. Diciamo che la proteina da vaccino ha un vantaggio su quella naturale perché è molto più stabile. Cioè l'hanno congelata in una conformazione stabile, che è quella che predispone tra l'altro, e questo c'era chi ci se lo sapevano, l'hanno bloccata in una conformazione che predispone il vaccinato a fare il potenziamento della malattia. Tanto per dire, no? Per cui non può nemmeno cambiare la conformazione, perché nel caso della malattia è reversibile, cioè spostarsi, può avere 6 tipi diversi di conformazioni questa spike. Invece i produttori l'hanno bloccata nell'unica conformazione che predispone per il potenziamento della malattia. Ecco. Quindi detto questo, e la spike vaccinale io personalmente la considero la vera arma biologica, perché è molto difficile degradarla, resta in circolo per tempo che non si sa ancora, almeno sicuramente l'hanno trovata in circolo per almeno 6 mesi, quindi una volta che viene prodotta continua a girare, fa danni, e purtroppo al di là dei danni che può fare a noi, che possiamo cercare di contrastare con le terapie, quindi con antiossidanti, acetilcisteina, lattoferina, anche la lattoferina blocca la spike, i batteri intestinali che producono sostanze che bloccano la spike, eccetera eccetera, quindi un sistema per noi possiamo anche trovarlo, ma sta facendo un danno all'ecosistema che non ha precedenti, perché la spike non è tossica solo per noi, è tossica anche per gli animali acquatici, per tante specie di mammiferi che sono nell'ambiente, quindi non siamo ancora in grado di calcolare l'entità del danno che ha fatto sta roba. E allora io ho letto 2 giorni fa che sono stati segnalati 600 milioni di casi di contagi da Covid al mondo dall'inizio, e mi sembra forse 6 milioni di persone decedute da Covid con il sistema che vi dicevo, cioè basato sul tampone, e sono state somministrate 11 miliardi di dosi. Cioè 11 miliardi di dosi. Avete idea quanta spike che finisce nell'ambiente? 11 miliardi di dosi. Quindi è qualcosa che non so quando decideranno. La bomba atomica. Non so quando decideranno di fare poi veramente una valutazione dell'impatto ambientale. Perché stanno, ci sono degli articoli che veramente hanno scritto, ma valeva veramente la pena fare tutto questo casino per poi trovarci su questa situazione. Quindi c'è da chiedersi se è stata una cosa voluta o meno, perché dopo alla fine dei conti l'impatto ambientale penso che sia quello più drammatico, perché colpisce non solo noi, colpisce tutto l'ecosistema. Se a questo poi aggiungiamo l'aumento scriteriato di rifiuti, mascherine, tamponi, tutte queste cose qui che sono stati usati a dismisura, che senso ha fare il tampone ogni due giorni? Non ha senso. Quindi anche poi rifiuto che deve essere gestito, smaltito, mascherine a non finire, e disinfettanti usati in maniera, ne abbiamo abusato, tutti sono finiti nell'ambiente, disinfettanti. Quindi stanno già vedendo dei cluster, diciamo così, di batteri che sono altamente resistenti. Quindi se avevano parlato del 2050 come data in cui l'antibiotico resistenza sarebbe stato la prima causa di morte per le persone, abbiamo anticipato un pochino con l'uso dei disinfettanti con il Covid. Quindi anche questo è un altro disastro terribile che ora hanno fatto. Quindi questo porterà anche, secondo me, a rivalutare l'approccio per la prevenzione, l'approccio per le terapie, perché dovremo veramente cambiarlo di fondo. E forse io penso che questo è anche l'aspetto positivo di tutto quello che sta succedendo, è che cominciamo a mettere in discussione le cose che non andavano bene neanche prima e che il Covid ha semplicemente accelerato, ha dato una grande spinta verso anche questo cambiamento su come gestire la salute, come gestire la prevenzione e come curare anche le malattie. Ecco, io non so se avevamo qualche altra domanda. Sì, ce n'è una qui. Buongiorno. Io volevo fare due domande. La prima, all'inizio lei ha parlato della inutilità delle intubazioni quando c'è un ricovero per Covid. Sì. Vorrei avere la spiegazione del perché, visto che quando uno non reagisce al casco, al cosiddetto casco, nel momento del ricovero, poi si passa in rianimazione con l'uso dell'intubazione. E questa intubazione si protrae anche per tempo lungo. Sì. Allora, con tutti io i problemi poi della riabilitazione. Assolutamente sì. Questa è la prima. La seconda, sì. Mi scusi, così finisco. C'è questa resistenza al riconoscimento dell'impossibilità a fare il vaccino, all'esonero. Tant'è, e parlo per un caso mio, come il mio caso, in cui al momento del ricovero per Covid mi è stato detto esplicitamente: tu non potresti fare il vaccino, ma lo devi fare al quarto mese in una struttura protetta e sotto sedazione. Allora, sì, c'è scritto in cartella clinica, non solo detto, ma scritto in cartella clinica al momento delle dimissioni. Allora, io ovviamente, a parte che sono nel campo medico, le chiedo che si deve fare per opporsi a certe determinazioni, perché si riconoscono già da sé che sono in contropiede, ma che si deve, cioè uno può dire va bene, è cosciente del rischio che corro, non voglio la vaccinazione, ma chi se ne frega, me ne frego. Però c'è un mezzo per denunciare queste persone, perché qui si rischia la denuncia, perché tu mi riconosci come rischio e mi mandi in una struttura, e ci sono delle strutture apposite a livello ospedaliero mirate per il ricovero di queste persone sotto sedazione, il test del vaccino, che poi ti mandano via dopo una settimana, puoi non avere avuto niente, ma come sosteneva lei ci sono delle reazioni a distanza. Quindi che fare in questi casi? Grazie. La prima domanda che riguarda l'intubazione, io penso di avere ancora gli anestesisti che mi corrono dietro con la forca, perché inizialmente ho detto guardate che gli studi cinesi fatti sulla SARS-CoV-1 sconsigliavano caldamente l'intubazione, e tanto è vero che i cinesi non avevano nemmeno messo la coagulopatia, quindi la CIT, o anche da tromboembolia polmonare, tra le reazioni avverse da complicazione Covid, perché loro hanno praticamente intubato 2 persone su 10 e facevano anche delle intubazioni molto brevi, quindi intubavano, toglievano, rimettevano scasco, cioè a seconda, quindi ci voleva un trattamento veramente molto personalizzato e molto attento, cioè un malato Covid che ha una complicazione, che va in ospedale, dovrebbe essere seguito 24 ore al giorno da una persona che guarda la saturazione, toglie, mette, fa, teniamo che in Italia 9 persone su 10 sono state intubate. È ovvio che la tromboembolia e la CID diventano le patologie più frequenti come morte Covid, perché quello che si è visto è che l'intubazione precipita la trombosi polmonare, perché si ha l'innesco di un fenomeno che si chiama Billy Vortex, cioè un sistema per cui si formano i coaguli nei polmoni. Quindi questa cosa qui è ben descritta come meccanismo, lo sanno benissimo questa roba qua, cioè loro non potrebbero. Allora, se noi teniamo conto che quando c'è una tempesta di citochine la coagulabilità del sangue aumenta, e quindi la persona è di per sé predisposta a fare la coagulopatia, se noi gli facciamo l'intubazione è come se dessimo l'innesco alla coagulazione, perché questo fa l'intubazione per vari meccanismi. Quindi i grandi luminari che si occupano di terapia intensiva o altro sanno benissimo che i pazienti che sono predisposti, come quelli che hanno il Covid, a fare la coagulopatia, non bisognerebbe farli l'intubazione. Quindi è ovvio che se mi arriva una persona in ospedale con una saturazione a 70, la prima cosa che fanno è intubarlo. Ecco, però, quindi cosa vuol dire? Che non bisogna far arrivare le persone tante in ospedale, le ho curate prima. Secondo, loro hanno ancora adesso, perché io ho visto i protocolli, mi sono informata, utilizzano ancora i protocolli per persone che hanno desaturazione per il Covid, non sono stati modificati per i pazienti Covid, che invece andavano assolutamente modificati. Adesso io non so se sono riusciti a fare delle modifiche proprio per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva che devono essere ventilati. Io spero di sì, perché sono passati 2 anni, però a settembre 2021 non era così, dopo io non sono informata perché non è il mio ambito, però ripeto, c'è un meccanismo ben preciso che si sapeva già dalla SARS, che non si dovevano intubare i pazienti, cioè si deve fare tutto il possibile per non intubarli. È ovvio che se no quella persona ha bisogno si fa, ma deve essere fatto con la massima cautela, e quindi se si fa l'intubazione bisogna aumentare la quantità di eparina in maniera compatibile con questo rischio qui, bisogna fare tutta una serie di valutazioni, altrimenti la persona veramente muore. Questo qui purtroppo è documentato, ma da una mole di lavori impressionante. Ecco, dall'altra parte invece, mi ricordo l'esonero. Ecco, questo è un punto veramente molto dolente, perché allora i medici di buona volontà facevano le valutazioni con analisi, quindi prendevano le cartelle cliniche, facevano fare le analisi delle persone, valutavano i rischi sulla base del meccanismo del danno e facevano gli esoneri. Voi sapete adesso che sono arrivati anche degli avvisi di garanzia ai medici che hanno fatto gli esoneri. Il problema è, come vi dicevo prima, l'esonero passa per la controindicazione. L'EMA non ha messo controindicazioni nella scheda tecnica, ha messo delle controindicazioni a chi si è già fatta la prima dose. Quindi uno la vaccinazione la deve fare per sapere se è allergico ai componenti del vaccino o se fa determinato. Quindi capite che non ha nessun senso in termini di prevenzione. Quindi ci sono denunce, ci sono esposti, c'è una mole di lavoro fatta dagli avvocati che è impressionante su questa cosa, però al momento i medici ricevono gli avvisi di garanzia. Ecco, quindi ci sono delle situazioni in cui effettivamente, ripeto, chi ha più di 50 anni qualcosa si trova per esonerarlo, vi posso assicurare che c'è sempre qualcosa che si potrebbe esonerare, però loro hanno valutato che erano veramente troppe le persone che meritavano l'esonero, per cui per vendere i vaccini non hanno fatto finta di niente, o addirittura impongono ai medici di non fare gli esoneri con strategie di ricatto, perché stanno ricattando i medici. Certo, anche questo è un ricatto. Per cui io che ho fatto la vaccinazione da te, te mi viene a dire, ma hai fatto una reazione avversa? Io assolutamente. No, loro sono protetti. Il vaccino è segno che il vaccino va bene. Sì, no? Allora attenzione, c'è diciamo una strategia che si potrebbe utilizzare, però anche qui ci vuole l'aiuto dell'avvocato, perché bisogna sapersi difendere correttamente, no? Ora sapete che per legge questi vaccini devono assolutamente essere prescritti, perché sono monitoraggio addizionale, eccetera, eccetera, hanno bisogno di una ricetta speciale. Il medico nel momento in cui vi fa la ricetta si prende lui la responsabilità. Ecco, quindi la prima cosa è chiedergli la ricetta. La persona che ha bisogno di un esonero va lì con il fadone delle cartelle cliniche, con una valutazione con esami che dice che la persona ha delle patologie importanti, e quindi si fa fare un ulteriore studio, e lì si mette di fronte il medico a dire, guarda che se tu mi fai la ricetta e io mi vaccino e ho delle complicazioni a causa di quello che ho, paghi tu, perché le assicurazioni non pagano. Quindi deve pagare di tasca sua con i suoi soldi. Ecco, quindi di solito i medici preferiscono fare l'esonero tra le due. Oppure dicono, io la ricetta non te la faccio. Però questo diventa omissione di qualcosa che lui è obbligato a fare per legge, per cui può essere denunciato. Quindi lì si fa, però il problema è che si denuncia il medico, poi intanto la persona viene sospesa, siamo al punto di prima. Capite? Cioè non è una situazione molto semplice, non ci sono delle soluzioni concrete al problema. Ci sono state fino al 4 di agosto, 6 di agosto, che i medici stavano esonerando con una certa serenità, dopo sapete benissimo cosa hanno combinato. Adesso anche quello di fare il rinnovo continuo dell'esonero, cioè se una persona ha una patologia, non è che domani le va via, no? Soprattutto se sono malattie genetiche che hanno una certa importanza, oppure una persona che ha avuto il cancro, ce l'ha avuto appunto, quindi dovrebbe essere esonerata. E invece continuano a fare la rivalutazione, perché devono revisionare continuamente le segnalazioni di danni da vaccino e dire se quelli sono danni da vaccino oppure no. Siccome continuano a dire che non lo sono, quindi quelli che sono esonerati, per esempio per trombosi o altro, l'EMA dice che la trombosi non è un danno da vaccino, per cui finiamo sempre che la persona è vaccinabile. Quello è il problema. Non c'è modo. Al momento, tranne quello di richiedere la ricetta e ricattare il medico a sua volta, io ho visto delle situazioni in cui le persone effettivamente sono riuscite a difendersi, sono venute fuori con l'esonero, da rinnovare dopo un mese. Cioè, capite? La persona doveva ritornare lì dopo un mese con la stessa trafila di prima, capite? Quindi siamo in una situazione veramente drammatica, io non saprei proprio, perché anche con gli avvocati stiamo studiando di tutto di più, però vi dico, ci sono una valanga di denunce, di esposti su questa cosa qui, anche a livello internazionale, perché la cosa non è solo qui, è a livello internazionale, per cui il primo che riesce a risolvere il problema si spera apre la porta per tutti, però al momento c'è ancora una situazione di stallo, non vedo soluzioni. Allora, prima di passare a qualcun altro del pubblico, faccio una domanda dalle persone che ci seguono online. La domanda riguarda i bambini di 5 anni, si chiede un approfondimento sugli affetti, sui bambini e il sistema immunitario a quell'età. E inoltre, sempre relativo ai bambini, gli effetti dell'uso obbligatorio delle mascherine. Allora, il problema delle mascherine, parto dall'ultima, il problema mascherine delle dei bambini è quello che avevo prima, però allora il primo problema, non so se sta scaricando, il primo problema riguarda appunto il fatto che il bambino si sta scaricando, sì. Sto scaricando anche io. Il primo problema è l'anidride carbonica che il bambino respira, per cui dopo un po' si rimbambisce con la mascherina addosso, no? Quindi caduta di attenzione, problemi di apprendimento perché non riesce a stare attento, tutte queste cose qui. Mancata ossigenazione dei tessuti, no? Però diciamo che c'è il problema della rinoculazione, vi dicevo prima, cioè il fatto che se il bambino ha un virus o qualcosa a livello delle aree di aree superiori rischia di fare polmoniti, bronchiti, proprio perché ha la mascherina addosso. E l'ultimo è quello del problema delle plastiche, cioè diciamo il deposito di microplastiche dalle fibre delle mascherine che possono essere inalate, quindi il beneficio è assolutamente nullo, anzi direi che abbiamo delle conseguenze molto gravi. Anche in relazione all'aumento di rischio di infettarsi. Ecco, quindi le mascherine non solo non proteggono dal virus e gli altri che sono a contatto con una persona con la mascherina, ma addirittura rischiano di infettarsi di più sia chi porta la mascherina sia chi è vicino a una persona con la mascherina. Allora, i bambini si è visto che hanno una risposta all'infezione molto efficace, nel senso che il sistema immunitario che loro hanno fa sì che il bambino nemmeno si infetti, quindi raramente il bambino si infetta. Quando si infetta fa una malattia normalmente lieve o asintomatica, seleziona delle varianti molto deboli, per cui è vero vaccino naturale, cioè il bambino che si infetta bisogna farlo andare in giro, perché è quello che diffonde il virus asintomatico, quindi che non causano poi l'infezione, e diciamo che ci sono dei casi particolari di bambini predisposti che sviluppano la sindrome infiammatoria multisistemica, che fa molta paura. Ecco, in realtà io sono andata a vedere, è una malattia curabile, nonostante sia grave, bambini non muoiono di questa malattia qui, quindi i casi di decessi, che comunque sono veramente tendenti a zero, prevedono che il bambino abbia delle malattie da immunodepressione o da altre patologie gravemente invalidanti, per cui muore per la malattia più che per l'infezione che manifestano. Anche qui, se una persona ha un contagio da Covid, però ha un'altra patologia, si dice che è stato il Covid a farla morire, no? Una persona ha un'altra patologia, fa il vaccino e muore per una conseguenza su questa malattia, non è stato il vaccino, è stata la malattia, no? Anche questa discrepanza nell'andare a fare questo tipo di valutazione, che purtroppo succede sempre. Ecco, però anche qui i bambini andrebbero studiati prima, quindi fatti una valutazione anche a scopo di prevenzione, perché questo permetterebbe di capire il meccanismo di queste patologie gravi da Covid e cercare di fare prevenzione e cura adeguate per evitare che evolva nella forma complicata. Ecco, quindi i bambini, ripeto, non hanno nessun beneficio personale e nessun beneficio collettivo a fare la vaccinazione, per cui veramente siamo di fronte a un atto, l'ho detto tante volte, criminale. Ecco. Perché... Ricordiamoci che hanno mandato i carabinieri da De Donno, siamo in questo paese qui, certo. Che stava curando i pazienti a gratis. Certo. Gli hanno mandato i carabinieri, quindi certo. Stiamo in questo paese. L'unico paese al mondo. Sì. Sì, sì, ma hanno mandato gli avvisi di garanzia ad alcuni medici che facevano gli esoneri, anche ad alcuni che hanno fatto la terapia domiciliare, che sono morti in ospedale perché non li hanno curati, in ospedale hanno fatto anticorpi monoclonali e antivirali inutili, quindi la malattia è progredita, la persona è morta, e hanno dato la colpa al medico che ha fatto la terapia domiciliare. Ha detto che è stato lui che ha sbagliato a curare la persona. Ecco, però quelli che fanno tachipirina, avviso d'attesa, quelli no, non hanno l'avviso di garanzia. Capito? Cioè, è un sistema costruito così, purtroppo. L'obbligo di vaccino della donna incinta. Allora, non esiste nessun vaccino che sia utile da fare in gravidanza, nessuno, perché va tenuto presente che la gravidanza per l'organismo della mamma è come se fosse un trapianto fisiologico, quindi il sistema immunitario deve tollerare l'esistenza di un materiale dal punto di vista immunologico diverso da quello della mamma. Quindi la mamma deve andare in uno stato di immunodepressione fisiologica, ecco, o di tolleranza immunologica più correttamente. Allora, se noi facciamo il vaccino, rompiamo la tolleranza immunologica della gravidanza, per cui la mamma ha due possibilità. Se viene vaccinata nella prima fase della gravidanza, fa un aborto, quindi abortisce il bambino perché il sistema immunitario attacca l'embrione, il feto. Se invece viene vaccinata nell'ultima fase della gravidanza, ha il parto prematuro. Ecco, quindi questo lo fanno tutti i vaccini, perché il meccanismo d'azione del vaccino è causare una forte infiammazione. Bene, sappiamo che l'infiammazione è il fattore scatenante che porta all'aborto. Ecco, quindi se si vuole fare abortire una donna, facciamo il vaccino. Ecco, quindi in questo caso qui in realtà ci sono dati, ci sono pubblicazioni che hanno confermato l'aumento di rischio di aborto e di parto prematuro in seguito al vaccino Covid, per cui non, anche qui non si capisce, ci sono dei danni, sono assicuro, assolutamente sì, no, perché sono obbligate per andare in ospedale a partorire? Per lavorare, sì, allora no, e ripeto, i rischi sono veramente quelli di perdere il bambino, e se il bambino nasce, a parte i danni che può avere la mamma stessa, cui la mamma essendo in uno stato di tolleranza immunologica barra immunodepressione naturale, e può sviluppare patologie molto gravi da vaccino, quindi a lei stessa a rischio di un danno da vaccino, quindi di fare la trombosi, di fare miocardite, di fare altre cose, e in più espone il bambino che nascerà, nel caso in cui riesca a sopravvivere alla vaccinazione della mamma, con patologie congenite, perché la spike passa la placenta e può attaccare il bambino. Quindi può attaccare il suo sistema nervoso centrale, può attaccare il cuore, cioè io ho già segnalazioni di bambini nati da mamme vaccinate con malformazioni cardiache grave. Quindi esponiamo i bambini a dei danni che possono essere riconosciuti come congeniti, per cui diranno il bambino è nato così, sì, va bene, è nato così, però in gravidanza la mamma era stata vaccinata, quindi è un danno acquisito, non è congenito, è stato causato dalla vaccinazione. Ultime due domande perché siamo in conclusione per l'intervento di Loretta. Chi era prenotato? Buongiorno. Volevo sapere se è reale la possibilità di trasmissione della spike da un soggetto vaccinato a uno non vaccinato. Questa è una bella domanda su cui avevamo iniziato a fare lo studio, però purtroppo non è stato possibile finirlo. E quindi questo studio qui ha permesso solo di sapere che la spike c'è nel sangue anche per tempi molto lunghi, però negli altri fluidi non abbiamo informazioni, per cui dobbiamo partire dal presupposto che lo fa e quindi che ci possa essere una trasmissione di spike, per cui conviene fare la prevenzione, ecco, la prevenzione che può essere suggerita per gli operatori che devono lavorare con le persone vaccinate. Ecco, al momento la soluzione che abbiamo visto, che sembra che abbia anche degli effetti positivi, è proprio quella della somministrazione continuativa di acetilcisteina, magari non nei dosaggi curativi, si fanno 200 mg una volta alla settimana, una volta a seconda della tolleranza individuale, perché comunque l'acetilcisteina non è una sostanza, diciamo, che causa danni specifici, a meno che una persona non abbia dei polimorfismi un po' particolari, per cui tende a intossicarsi il fegato se usa quantità eccessive, no? Quindi con il dottor Di Bella abbiamo visto che il limite massimo tollerabile per persone che hanno anche predisposizioni è 200 mg al giorno, per cui fino a 200 mg sembra che non faccia danni neanche cumulativi. Se la persona invece sente che ha nausea o altro, interrompe e può fare, prendere il dosaggio che non le dà fastidio. Ecco, perché la acetilcisteina comunque ha un effetto antiossidante importante e in più fa da antidoto per la spike. Questa è la modalità più semplice, diciamo, per fare prevenzione. Allora, sarebbe un donatore? No, non possono donare il sangue. Ah, lo fanno. So che lo fanno. So che lo fanno, ma anche qui ho parlato con un centro trasfusionale, per cui c'era una persona da parte dei nostri gruppi, e mi ha detto che lei aveva suggerito di aspettare 4 settimane prima di vedere se la persona poteva donare il sangue. Adesso sappiamo che la spike dura oltre 6 mesi, per cui non può proprio, cioè nel senso che bisognerebbe fare l'analisi del sangue, perché bisognerebbe andare a vedere se c'è la spike vaccinale, se ci sono gli anticorpi vaccinali, se ci sono gli immunocomplessi, spike, anticorpo, e se ci sono i fattori della coagulazione attivati. Perché se la persona è di dimero alto, non è che possiamo fare una trasfusione di sangue di una persona che ha il di dimero alto, rischiamo di causare la trombosi nel ricevente. Ho chiesto espressamente alla dottoressa del centro trasfusionale, diceva che queste componenti non le riceve, però perché se... Scusate, ci sono delle persone prenotate però prima. Salta fuori che c'è la spike, ti devono mettere in quarantena. Dunque, volevo dire, la domanda che c'era stata fatta sempre da chi ci segue online è stata già risposta, perché chiedevano cosa si deve fare in caso di contatto con persone vaccinate, si riferivano al librettino che hai messo. L'ultima domanda alla signora. Può dirci qualcosa in merito al grafene all'interno dei vaccini? 5G. Grazie. Posso finire? Scusate, vorrei finire la domanda sulle trasfusioni e anche sui trapianti, perché è molto importante. Allora, purtroppo qui, anche qui siamo di fronte a una violazione grave del principio di precauzione, perché anche loro dicono, siccome adesso la popolazione vaccinata è molto ampia, se non raccogliamo il sangue di tutti, non abbiamo più sangue, no? Ecco, quindi loro hanno fatto finta di niente, sono chiusi gli occhi e va bene così. A me è successo di un caso gravissimo di un bambino che doveva essere operato e i genitori non hanno voluto il sangue, cioè la sacca di sangue dei vaccinati. Hanno detto non vogliamo perché non sappiamo poi che conseguenze hanno sul bambino, no? E hanno tolto la patria potestà ai genitori, tanto per dire. Per cui ci sono stati degli altri casi in cui i familiari hanno detto: guardate, abbiamo lo stesso gruppo sanguigno, doniamo noi sangue per il nostro familiare, siamo tutti quanti disponibili. Gli hanno detto di no, perché devono passare per il centro trasfusionale, loro raccolgono, mettono tutto il sangue insieme e poi fanno la sacca, per cui non è possibile fare la trasfusione da donatore alla persona che ha bisogno direttamente, perché è sempre il centro trasfusionale che decide questa cosa qui. Quindi anche questo è un sistema che non sappiamo come gestirlo, perché basterebbe avere una banca nel sangue dei non vaccinati per poter fare questa cosa. Quindi può essere che dovremmo organizzarci in tal senso, perché il centro trasfusionario non ha nessuna intenzione di farlo. Ecco, quindi anche qui, ripeto, bisognerebbe fare almeno 3 marcatori, no? Di dimero, la spike e gli anticorpi vaccinali. Questi qui ci sono, la persona non può donare sangue. E mi hanno risposto che siccome i danni da vaccino non ci sono, non esistono, non vale la pena spendere soldi in più e caricare il sistema sanitario di una spesa in più che non sale a niente. Queste sono le risposte che però hanno messo 150 milioni di euro per rimborso di danni. Non li daranno mai, li saranno per qualcos'altro. Voglio dire, ufficialmente hanno ci detto sono, questo, ma non li daranno mai. Quindi vuol dire che se ufficialmente hanno detto allora, che stavano riconosciuto. No. Allora, l'avevano fatto anche, allora, l'avevano fatto anche con i vaccini pediatrici, che hanno messo un fondo per pagare i danneggiati, poi hanno detto, oh guardate, i danni da vaccino non ci sono, li usiamo per fare i vaccini, okay? Quindi, attenzione, perché tanto sono soldi che poi vengono spostati da altre parti, quindi lo dico per esperienza. Loretta, scusa, la domanda del grafene e del 5G, perché siamo in conclusione. Certo, è una bufala, punto. Ok, grande risposta. Già finito. Sì, sì. Bene. Siamo in conclusione, Loretta fra pochino ci lascerà, va oltre, e passo la parola a Francesco. Sì, come vedete sono passati 2 anni e non riusciamo a credere a quello che ormai sappiamo, che sentiamo, a cosa in particolare, che siamo soli, ci hanno abbandonato i sindacati, i medici, i partiti, addirittura anche le istituzioni religiose, noi siamo soli e dobbiamo fare da soli. Ora si sta aggiungendo un'altra emergenza a quella sanitaria, un'emergenza che si svolge in parallelo, che vedete siamo attaccati dal lato della salute, siamo attaccati dal lato dell'economia, siamo ricattati, o ti vaccini o non lavori, ma oggi c'è un'altra emergenza che si sta svolgendo in parallelo, cioè la guerra. Attenzione, viviamo in un territorio particolare, Basenato, Camp Derby, e, come avete visto, ci sono dei soldi ma per una cittadella militare. E non è solo questo, c'è un'altra emergenza, quella economica, che sta arrivando, terribile. E alcune parole sono state pronunciate proprio da chi ci governa. E dicevamo, la parola qual è stata? Razionamenti dei consumi. Quindi noi siamo soli e ci dobbiamo riorganizzare per affrontare quello che sta arrivando, perché ci stanno dicendo di nuovo delle cose e ce lo dicono a gran voce tutti i giorni, 24 ore su 24, ci dicono che la pace si fa mandando armi. Noi siamo un paese belligerante. A quel lungo elenco di abbandoni dobbiamo aggiungere davvero ciò che abbiamo contro il governo. Il governo è contro il popolo. La magistratura se n'è lavata le mani in gran parte. Il Parlamento è accodato al governo. Quindi, e poi c'è un altro enorme potere, quello della stampa, che abbiamo contro. Quindi noi dobbiamo riorganizzarci, dobbiamo sapere come fare, dobbiamo fare in fretta. Perché cosa ci aspetta? Ma se davvero il governo vuole fare la pace rinunciando anche al gas che arriva dalla Russia, voi capite che siamo in una situazione terribile. Inflazione a due cifre. Uno come Bonomi, l'altro ieri ha detto, Bonomi, il capo di Confindustria, non uno qualsiasi, ha detto gran parte dell'attività economica, dell'attività produttiva sta diventando antieconomica, vuol dire che chiudono le imprese. Allora, se era già inaccettabile per noi tutto quello che oggi abbiamo ascoltato, tutto quello che arriverà, prima di abituarci al fatto che davvero abbiamo tutti contro, purtroppo ci metteremo del tempo, in mezzo c'è l'estate. A una domanda il giornalista che ha fatto un giornalista durante la conferenza stampa a Draghi, gli ha fatto una in particolare in cui gli diceva: ma davvero possiamo rinunciare al gas che ci arriva dalla Russia? La metà del gas che ci arriva dalla Russia, la metà del gas che consumiamo ci arriva dalla Russia. Attenzione che qualsiasi attività produttiva, visto che ci dobbiamo abituare ad avere gas che ci arriva ora dagli Stati Uniti, ma coprirà il 10%, e costa 4-5 volte di più oggi, molto meno gas che costa molto di più, ma noi produciamo tutto grazie ai combustibili fossili, anche il cibo che mangiamo, quindi inflazione a due cifre, aziende che chiudono. Allora dobbiamo, così come stiamo imparando a proteggerci da vaccini, long covid e tutto il resto, dobbiamo imparare a proteggerci rispetto a un ventaglio molto più grave. Perché ha parlato di razionamenti, ha detto, dice sì, ma tanto fino a ottobre ci abbiamo le riserve di gas, se ce lo chiede l'Europa dovremo fare a meno del gas russo, ma fino a ottobre, a tardo ottobre, queste sono state le sue parole, abbiamo abbastanza riserve di gas. Capite in che situazione siamo? È una situazione difficilissima. Allora dobbiamo fare in tempo a riorganizzarci rispetto a quello che sta arrivando e che si somma, non è che sostituisce, si somma emergenze tra virgolette parallele indotte apposta. Prima ce ne rendiamo conto, prima ci organizziamo e ci abbiamo tante strade da percorrere, però dobbiamo essere fattivi, cioè dobbiamo davvero riuscire a utilizzare tutto quello che abbiamo contro per costruire un altro modo di vivere, un altro modo di valorizzare le comunità. Facciamolo presto. Oggi è una giornata particolare. Oggi è il 25 aprile, la resistenza continua. Grazie. Posso fermarmi, ma devo andare a buca.